בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Quasi svizzeri questa sera, vero Maurizio? Hai visto? Assolutamente svizzeri. Assolutamente svizzeri. 21 passate da qualche secondo. Buonasera ad Agostino Spolaore e buonasera come sempre anche dal mio fedele compagno. Ciao. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. È stasera solo proprio pieno di cavi. Sì, infatti. Assolutamente pieno di cavi, libri, stampati e soprattutto spartiti musicali, quello importa. Però non hai ancora detto il tuo nome. Ah, ma non l'ho detto? No. È Maurizio, buonasera. Allora, buonasera da Blu Radio Veneto, buonasera da Agostino, da Maurizio, ma soprattutto buonasera dalla buona musica, come sempre il giovedì in diretta con qualche, come dire, qualche momento live in acustico e non solo, anche da disco. E come sempre anche questo giovedì ci sarà una serata all'insegna della musica dal vivo con una band che praticamente è un tributo band qui della zona nostra, diciamo zona veneta, e si chiamano Status Symbol. Ciao ragazzi, ma vi presento tra pochissimo, prima come sempre dobbiamo dare i nostri dati. Allora, vi ricordo il nostro numero telefonico, quello in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms, che stasera magari se li dovete mandare perché si parlerà di nomadi e non solo, e anche delle loro canzoni, vi ricordo gli sms, quindi dicevo il 346 23 20 033. Poi ancora le nostre frequenze 88 700 e 94 600 MHz in modulazione di frequenza. Se invece ci volete ascoltare in streaming, decidete di andare a casa e sentirci tramite il nostro, vostro meglio dire PC, allora basta che vi collegate nel nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it, e lì ci ascoltate in streaming cliccando semplicemente sulla scritta ascolta la radio, oppure io ho messo sulla mia bacheca di Facebook il player per andare direttamente senza passare dal sito per ascoltarci in streaming 24 ore su 24, assolutamente in diretta come tutte le sere, insomma sempre qui con queste band e questi cantanti, ma anche i nostri programmi, le nostre rubriche e quant'altro che succede durante la giornata. Il nostro sito trovate tutte le recensioni, quindi anche quella degli Status Symbol, che di solito per quanto mi riguarda, cioè il programma del giovedì sera è curato dal mio collega, cioè Maurizio Calzavara, che quindi ringrazio, non te l'ho mai detto, ma questa volta ti ringrazio, va bene Maurizio, per tutte le recensioni. grazie a te, beh non importa, poi ne parleremo in separata sede. Ma adesso spazio alla musica, perché stasera io già solo durante le prove avevo i brividi, gliel'ho anche detto, perché certe canzoni di Nomadi fanno parte della mia gioventù, della gioventù di Maurizio, della nostra era praticamente, dagli anni 60 in poi hanno accompagnato un sacco di momenti belli con tantissime canzoni, ma ne parleremo tra poco, quindi ancora una volta benvenuto agli Status Symbol. Ciao ragazzi! Ciao Agostino, ciao Maurizio. Ciao ragazzi. Parlatemi sempre comunque vicino ai microfoni quando parlate, va bene? Allora, lascia a te Maurizio quello. E dunque, c'è una introduzione molto interessante che è questa, una frase. La storia di Status Symbol nasce dalla voglia di cinque ragazzi che si sono ritrovati per dar vita a un gruppo che potesse unire in un unico genere le svariate esperienze musicali. Cinque ragazzi per portare avanti un discorso. Stasera celebriamo in piccolo il 50 anni della band dei Nomadi. Chi parla? Andrea, vuoi parlare te? Poi a ruota tutti gli altri. Rompiamo il ghiaccio, dai. Certamente, bisogna rompere il ghiaccio. Alle 21.04 in perfetta diretta. 50 anni dei Nomadi, penso che... Un progetto grande, grandissimo. Prima di tutto penso che abbiano fatto un lavoro immane in questi 50 anni, perché portare avanti la musica, le idee... con la mentalità che hanno tutti quanti il giorno d'oggi non è semplice, insomma. Poi con dei cambiamenti che hanno avuto anche a livello di gruppo, i Nomadi, nell'arco di tutti quanti i 50 anni di storia. Sappiamo benissimo che da Augusto in poi le cose sono cambiate, perché Augusto portava avanti una mentalità, un ideale, poi con Danilo hanno fatto un altro stile e adesso con Cristiano si stanno evolvendo ancora. Sì. Quindi con Cristiano vanno verso più rock, secondo me. Sì, perché la tendenza penso sia quella, bisogna stare dietro il passo con la dei tempi, tecnologia strumentale, certo, tempi, certo. Le richieste che hanno tutti e quindi bisogna evolversi. Augusto aveva una fase ideale, poi è arrivato Danilo, una fase concreta, e è arrivato l'ultimo Cristiano, una fase rockettara. Le tre fasi che hanno subito i Nomadi praticamente in 50 anni. 50 anni di tanti successi, di tante canzoni memorabili, di tante canzoni importanti. Sì. Assolutamente importante. Tanti brani, ci sono diversi, da quello che a me piace più di tutti di Augusto, parliamo anche dell'era gucciniana, è Asia. È Asia, è un pezzo molto importante, tratto dall'Isola Non Trovata, un disco difficile complesso, che Augusto aveva questa caratteristica di pescare sempre i pezzi non così famosi di Guccini, che l'ha incontrato nella famosa stazione di Novellara assieme a Vice Tempera. La storia è quella: Vice Tempera e Francesco si sono ritrovati alla stazione di Novellara. Francesco era uno sconosciuto, è stato lanciato qualche mese prima da una certa signora che si chiamava Caterina Caselli, che si chiama ancora Caterina Caselli in Sugar. Siccome Francesco Guccini abitava in un paese a Sassuolo, non proprio a Sassuolo, però peregrinava vicino a Sassuolo, Caterina Caselli era di Sassuolo, quindi era stata sulla Talent Scout, la prima Talent Scout. Quindi li hanno trovati alla stazione di Novellara, quindi vicino a Modena, e li hanno incontrati Vice Tempera, assolutamente uno sconosciuto musicista, e Francesco Guccini, assolutamente uno sconosciuto musicista. E da qui è nata, come si dice, una forte coesione di intenti. Cosa, esatto, dice Andrea? Una fusione ha creato un groove che ha portato avanti nella storia dei pezzi favolosi. Voi avete scelto Asia, che è un pezzo molto difficile. Sì, è difficile. Assolutamente difficile, anche come costruzione sonora, qua ci sono i musicisti compreso te, come arrangiamento non è semplice riportare un pezzo come Asia. Infatti chi ha avuto più lavoro da fare è Claudio, il nostro batterista. Batterista, esatto. E ci ha rimangiato su parecchio, perché appunto è un pezzo molto particolare. È quasi prog nella versione di Augusto, assolutamente sì. Prog. Esatto. Li presentiamo anche sì, uno per uno, perché abbiamo parlato solo del nome della loro band, che e tra l'altro questo nome della band è dovuto a una canzone, correggimi se sbaglio Mattia. Sì. Scusami Agostino. Il titolo della canzone del disco del gruppo, scusa, è dovuto al titolo di una canzone dei Nomadi. Sì, esatto, liberi di essere. No, il nome della band. Ah, Stato Simul, sì. Sì. Modo di essere. È il nostro modo di essere, Andrea. Sì, è nata così, 5 anni fa non si sapeva che nome dare. Ci abbiamo mangiato sopra anche lì e abbiamo pensato, è Stato Simul, che fatalità era un pezzo dei Nomadi. Dell'era Danilo Sacco, sì, diciamo, nel secondo periodo, praticamente tradotto in italiano vorrebbe dire modo di essere. Quindi siccome il nostro stile rispecchia quello dei Nomadi in tutto e per tutto, dalla musica alla solidarietà al comportamento al fare con i fan, con gli amici e tutto, perché non chiamarci Stato Simbo? Da lì è nata, insomma. Certo. Allora, chi sono questi Status Symbol? Ve li presento uno a uno. Avete sentito già, ve lo presento per primo, la voce Mattia Frigatti. Ciao, buonasera a tutti. Poi abbiamo Claudio Grandesso alla batteria. Lui arriva, parla con quello, sì. Buonasera a tutti. Ecco, perfetto. Date la voce, sono la frequenza. Poi abbiamo alla chitarra elettrica e acustica Filippo Piva. Ciao a tutti. E invece al basso c'è Michele Mattiazzi. Ciao a tutti. New entry, giovane. È la nostra mascotte. È lo strumento di tortura nei nostri concerti. Ah sì, è giovane anche, sì. Al pianoforte e alla tastiera un caro amico che ci conosciamo mai da tempo, Andrea Zanetti. Ciao Andrea. Ciao a tutti, ciao Agostino, ciao Maurizio. Mancherebbe un sesto componente, cioè il violinista che è una guest star, se ogni tanto partecipa, cioè Filippo Maretto, giusto? Sì, Filippo. Un grande che salutiamo. Lo salutiamo. Non c'è sempre, perché purtroppo meglio per lui, lo fa come lavoro primario, un insegnante di violino e anche è primo violino in varie orchestre classiche, quindi insegna anche a orchestre di giovani, quindi è super impegnato, insomma. Certo. Quindi quando può venire, anche se è distante chilometri, parte e viene, ci fa compagnia, insomma. Però comunque è uno di voi, insomma, ecco, però ho voluto farlo parte del disco, metterlo dentro su un pezzo che è all'interno del disco, che suoni, che è bellissimo, un pezzo bellissimo di cui parleremo più tardi. E adesso abbiamo deciso, caro Agostino, di far sentire qualcosa da disco, però. Subito, rompiamo il ghiaccio. La title track. No, anche perché loro vengono a presentare un disco che esce tra qualche giorno, giusto? Chi è che mi... Sì, lo facciamo partire qui in radio. E ringrazio appunto Agostino di averci dato questa possibilità di partire proprio a cavallo. Un'anteprima assoluta, allora, Andrea. Esatto. Anteprima assoluta, ce l'avete voi. Ecco, perfetto. E poi fisicamente, sperando che il tempo tenga, verrà presentato il 7 giugno a Villa Momis, nel giardino estivo di Villa Momis, insieme a un'altra band di Ferrara, che sono i Mercanti e Servi, che fanno tutto il repertorio di Augusto D'Olio. Ecco, che qui scatta il discorso di festeggiare i 50 anni e faremo il progetto, tutto il percorso musicale in una serata dei 50 anni. Stiamo creando. Quante già... ore? Saranno 2 ore e mezza circa. Poco per 50 anni. No, ma faremo fare i big, diciamo, dell'era di Augusto, secondo noi, ovviamente, secondo la nostra modesta stima, e i big secondo Danilo Sacco, valutati da noi, insomma. Ecco. Certamente. Allora, in questo disco che si intitola Liberi di Essere, ci sono delle canzoni appunto inedite e delle canzoni edite. Noi avevamo deciso, anzi hanno meglio deciso loro, di far sentire quelle inedite dal disco, in modo per far capire ancora di più la bellezza di questo suono, di queste canzoni, e anche il fatto di aver voluto fortemente questa cosa. Mi dicevi, Andrea, che non è stato facile all'inizio scegliere le canzoni da mettere nel disco per festeggiare i 50 e da abbinarli anche con le canzoni vostre. Sì, esatto, noi da un anno circa che ci stiamo lavorando a questo disco, fisicamente e materialmente sulle tracce, da circa 8 mesi. Da un anno come idea, parte tutto per festeggiare i Nomadi, e abbiamo dovuto capire che pezzi mettere, quelli prima di tutto che sentiamo nostri, diciamo, anche se sono dei Nomadi, ma nostri come livello strumentale, perché la passione che ci unisce la trasmettiamo sui pezzi. E poi abbiamo valutato cosa fare per le tracce nuove, insomma, ecco, quelle inedite. Io direi allora di ascoltare già subito una di quelle nuove, poi magari parleremo e torneremo a parlare delle vostre versioni dei Nomadi, delle canzoni dei Nomadi, va bene? Va bene. Okay. Ci ascoltiamo la title track, come si dice, come si diceva una volta. No, come si dice ancora adesso. Si dice ancora, sì, ma si dice ancora adesso. Noi diciamo in italiano, la canzone che dà il titolo all'album. Perfetto. Liberi di essere. Spalle il peso dell'umanità, la terra aride incolpe i bordi delle strade, solo sabbia e Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Mi sarebbe piaciuto vedere la faccia di Filippo mentre si scatenava in questo solo finale con la chitarra. Non sono i Nomadi, sono gli Status Symbol. Questa è la prima canzone che facciamo ascoltare da questo loro nuovo, nuovissimo, che deve ancora uscire, uscirà tra qualche giorno, che si, disco che si chiama Liberi di Essere. Questa era appunto la canzone che dà il titolo all'album. Allora Maurizio, le tue considerazioni? Sì, questo è un pezzo decisamente interessante, scritto nel testo da Mattia e scritto nella musica da Andrea. Però giustamente Andrea mi diceva è un pezzo scritto da assieme, da tutti. Cioè il testo l'ha scritto Mattia, però l'insieme dell'arrangiamento c'è stato l'input importante Andrea, però tutti quanti hanno gestito un pezzo simile, non è così Andrea? Sì, ogni strumento ci ha messo il suo, ovviamente lavorandoci assieme, perché la funzione del gruppo è proprio questa, se è un gruppo bisogna collaborare. I Nomadi avevano questa funzione qua, questo pezzo è vostro, però l'idea è sempre quella. Esatto. Si porta avanti questo tipo di... Allora ognuno ci ha messo il suo, abbiamo provato, riprovato, registrato i pezzi, provato con gli effetti tutto quanto e è uscito questo pezzo che a nostro avviso è molto buono. Avevate altri pezzi pronti, inediti, avete scelto, mi dicono di sì, avete scelto questi due qua perché secondo... voi questi due qua avevano una certa importanza nella scaletta. Sì, abbiamo altri pezzi in lavorazione perché non bisogna mai fermarsi. Giusto. Sai benissimo quando si finisce una cosa bisogna sempre andare avanti. The show must go on, come si dice, lo spettacolo deve sempre continuare. Anche perché abbiamo appena provato l'esperienza, ma anche sulla base dell'esperienza di altri ci vuole un anno per fare un disco fatto discretamente bene insomma. Quindi stiamo lavorando su altri pezzi e abbiamo scelto questi perché appunto Liberi di Essere è una questione che ci prende adesso, cioè di vita, i problemi di attualità, di vita, di famiglia, di valori che ci stanno perdendo e quindi abbiamo messo dentro questo. L'altro pezzo che ascolteremo dopo riguarda invece un'esperienza di vita vissuta proprio da Mattia stesso proprio e quindi ci ha messo il cuore, ecco. In Mattia, questo disco bisogna metterci Mattia in questo cuore. Pezzo ondeggia, fiancheggia la voce di Danilo Sacco anche dal punto di vista dell'aspetto, cioè io... c'è anche il cappellino. sono proprio così brutto? No, ma Danilo, amico, c'è ascolto, niente... ciao Danilo, non c'è niente di male. Poi, anzi, poi ce lo lasci in radio quel cappellino, vero? No, fa parte del personale. Toglietemi tutto, ma no, fa parte. Vai anche a letto a dormire col cappellino. Fa parte del personaggio, anche perché penso che entrerà a far parte del mio look, perché visto che li sto perdendo tutti. E tu, Agostino, più ti guardo da dire di cosa è anche lui parla tanto, forse assomigli un po' di più a te. Insomma, praticamente Mattia è un pezzo potente, ha una voce potente in ogni caso. Ho la mia, dai. No, è una bella voce potente che praticamente fiancheggia un pezzo potente alla fine, chitarra elettrica di Filippo, tastiere di Andrea, cioè sì. un bel insieme di suoni. È una pop rock, una ballata pop rock, una ballata praticamente, tra pop e rock però, che è accattivante, possiamo dire. Posso dire può essere un singolo potenziale, cosa dite voi? Magari. I singoli non esistono più, però ha questa idea di singolo. Potrebbe essere un singolo tranquillamente. Quindi... Esattamente. Intanto, una grande soddisfazione personale. Questo è molto importante. Scrivere un pezzo è una grande soddisfazione. Le soddisfazioni sono mai pagate. No. È vero. Cosa meravigliosa scrivere un pezzo, sapere che questo, vabbè, l'hai scritto te e Andrea, però è vostro praticamente, però è una grande soddisfazione. Incidere un disco è una grandissima soddisfazione. Vedi sbocciare quello che... è vero, una grande sofferenza, come dicevano gli americani, blood, sweat and tears, sangue, sudore e lacrime, ma poi siete arrivati alla fase finale, il disco è arrivato, è una cosa bellissima. E sai cosa c'è di bello, Maurizio? Che almeno penso di dirlo per tutti, ma parlo io personalmente. Mattia ha un modo di fare, di esprimere quando canta che non... è naturale. Non c'è istruzione tecnica, scuola che tenga. È naturale, assolutamente. Lui è libero. È libero. Quindi ha questa espressione che quando si mette crea questi capolavori, diciamo, nel nostro piccolo, insomma. Ecco. Crea una bella cosa, musicalmente, un pezzo che si sente, si sente immediatamente, entra immediatamente. Il pezzo deve entrare. Deve arrivare. Queste cose qua però non me le ha mai dette. No, ma te lo dice adesso. Te lo dice adesso. Perciò sono tre anni quasi che suoniamo insieme. Dobbiamo ricordare che al basso non c'è Michele nel disco c'è Luca Belloni, giusto? Nel disco. Sì, io sono entrato un po' dopo. a marzo. Ah, sì, quando il disco era già fatto. Il disco si era ormai esatto. quasi ultimato. Tu dai una ottima new entry, però dobbiamo ricordare che Luca Belloni suona nel disco praticamente. Sì, sì. Sì, per scelta di lavoro ho dovuto certo, certo. abbandonare diversi impegni musicali, tra cui però è sempre, che... è sempre nomadi anche lui, sempre nomade, possiamo dire. È stato per un anno e mezzo nomade. Quindi... quindi un grande grazie. Un grande grazie a Luca Belloni. Sì, grazie. Grazie. Allora, dimmi Agostino. Allora, sì, sì, la scaletta comincia perché abbiamo in loro siamo hanno a posto. Una... Siamo a posto. Siamo tutti a posto, tutto a posto. E la scaletta, un famoso pezzo del disco per l'estate. Quindi speriamo che per tutti gli ascoltatori questa giornata sia andata tutto a posto. Ma certo. E allora un passaggio alla musica dei Nomadi. Occhi suoi e capisco la mia ingenuità. Tutto a posto lo so, tutto a posto perché tutto è come quando andai, tranne lei, ma tutto a posto oramai, anche se ho il mio posto nel suo mondo più non c'è, ma è tutto a posto oramai, anche se ho capito che il mio posto nel suo mondo più non c'è. Dunque, per la storia, è un brano del 1974, Disco per l'estate. Non è di Beppe Carletti, è di Tavernese Salerno. E c'è un aneddoto. Tavernese, che era un musicista di Milano, si, dalla fredda Milano, nebbiosa Milano, arrivò a Novellara, si innamorò di Novellara e comprò una casa a Novellara. Questa è la storia di Tutto a Posto. Un pezzo molto nomade, Tutto a Posto. Solo Augusto poteva cantarlo. Poi l'hanno cantato gli altri, da Nino Sacco, eccetera. Però è un pezzo cantato da Augusto. 1974, Disco per l'estate. Bellissimo, secondo me. Uno dei tanti bei pezzi che nomadi costruirono, crearono per il disco. Una volta c'era anche il Disco per l'estate, voi siete giovani, ma Andrea forse ce lo ricorda. No, non lo ricordi il Disco per l'estate? Beh, ecco, si è stato nel 77, però beh, dimmi. Non vedo Maurizio tanti capelli in bianchi in testa di Andrea. Questo è Agostino non... Ad Agostino sì, ma non Agostino ha sì. Ma non hai capelli, ma non hai capelli, non hai capelli. Guarda che bello che sono, hai visto? non hai capelli. Beh, una bella versione, un po' posso dirti Andrea, con la tastiera leggermente verso il country andava, secondo me. Sì, con l'Hammond. Con l'Hammond leggermente sul country, ma è una cosa giusta, bella, perché i pezzi devono essere rivisitati, ricreati dalla mente della band che li rivisita. Esatto, e poi abbiamo lasciato anche un po', se ti ricordi gli anni, sì, c'era anche Francesco Gualerzi e Elisa, esatto, Minari. Ho lasciato proprio volutamente il sax finale, perché c'era Francesco che cantava, che suonava il sax, certo, alla fine proprio. Ovviamente non è un sax. Non è un sax. È fatto di tastiera, però ricordiamo sempre che, anche se sono passati vari artisti dei Tin Nomadi, è giusto ricordare i pezzi di storia che hanno lasciato. Indubbiamente. Io so che voi siete impegnati anche nel sociale, giusto Andrea? Abbastanza, diciamo, sì. Fate beneficenza. Sì, questo è una cosa che, diciamo, che condivide il gruppo che porto avanti io da diversi anni, perché è un bambino, insieme a mia moglie, adottato a distanza da Haiti da circa 9 anni e mezzo circa. E continuo a fare questa beneficenza verso di lui a livello familiare proprio, mantenendo il bambino là. Infatti l'abbiamo, si dice, adottato a distanza quando era quasi neonato, e adesso ha circa 11 anni, 12 anni. E ci manda ogni semestre le pagelle in francese e tutto quanto. Quindi ho detto, perché con il gruppo, ragazzi, non mi date una mano e facciamo qualcosa di beneficenza per aiutare di più questi bambini? Tanto bastano 300 euro l'anno e fai vivere un bambino là da Haiti un anno intero, lo fai mangiare, vestire e studiare. E allora siamo partiti con questa cosa, e praticamente anche durante i concerti c'è sempre chi ci dà una mano. Anzi, colgo l'occasione per salutare Annalisa, perché ci dà sempre una mano, una ragazza di Loreo. È vero, oramai onnipresente nei nostri onnipresente anche come aiuto a Luci quando suoniamo, quindi doppiamente grazie per questo aiuto che ci dà ogni volta. E raccogliamo fondi, anche se sono 10 euro per serata, li accumuliamo, e poi vado da Suor Maria Fogagnolo dell'Istituto Don Bosco qui di Padova e consegno direttamente a lei i soldi che li fa provenire alla sorella giù ad Haiti. Questa cosa è partita proprio 3 anni fa. Sì, 3 anni fa circa, quando c'è stato il terremoto, se mi sfugge, a gennaio 2010, mi sembra, sì. Gennaio 2010, infatti a febbraio 2010 subito abbiamo fatto un concerto qua a Padova, all'Istituto Don Bosco, anzi no, a Don Bosco della zona Mandria, scusate. Uh-huh. E poi abbiamo seguito facendo i concerti a Don Bosco dell'Istituto e di così. Però cerchiamo sempre di aiutare, e poi ovviamente abbiamo dato una mano anche ai terremotati dell'Emilia l'anno scorso, abbiamo aiutato con dei concerti anche gli alluvionati di Bovolenta, Casalserugo. Abbiamo aiutato anche l'associazione Augusto per la Vita. L'anno scorso abbiamo fatto l'Augusto Day per ricordare i 20 anni della morte di Augusto D'Aoglio. Quindi, esatto, anche se è una piccola briciola, però insomma. Sì, io sono sempre convinto che le nostre siano gocce in un mare grande, in un oceano. Quindi, però, se non ci fossero le gocce, non ci sarebbe neanche il mare. Esatto. E in più ti avvalli di un amico. Sì, un amico che l'ho conosciuto, guarda, è venuto a marzo l'anno scorso, ha portato un concerto per Haiti, e l'ho conosciuto a novembre prima. Cercavo proprio in internet una sera una persona, un artista, un musicista che facesse solidarietà col cuore. Ho cercato in internet diverse sere e mi è uscito questo Salvatore Ranieri, cantante di solidarietà. E allora da lì ho provato a scrivergli e mi ha risposto subitissimamente, e mi sono accorto che, anche se siamo a 400 km di distanza, è una persona come noi, ha la stessa età nostra, fatalità. Sono 15 anni, ha fatto 15 anni di carriera musicale quest'anno, ha avuto collaborazioni a livello nazionale, comunque te le spiegherà lui eventualmente se lo chiami. Ce lo spieghi tu? È lì. Ci sono, ciao ragazzi. Ciao Salva. Ciao Salva. Li chiamo ragazzi perché ormai siamo una famiglia unita, quindi faccio un palco e... No, sto seguendo molto l'intervista con attenzione quello che ha detto Andrea. Agostino, ti saluto, grazie. Sei una grande persona, questo lo penso da tantissimi anni, e saluto gli ascoltatori di Blu Radio. Grazie, sei un amore, tesoro. Io dico, quello che ha detto Andrea è veramente una bella cosa. Mm-hmm. Sì, parte della solidarietà, l'amicizia che ci lega tra noi, ma prima voglio dire una cosa, se posso. Certo. Ho ascoltato già in anteprima il loro disco e ho trovato sicuramente degli arrangiamenti fatti da grandi professionisti, e non solo professionisti, grandi ragazzi che comunque hanno formato una bella squadra, e gli auguro con tutto il cuore che la portino avanti con grande attenzione e determinazione anche in momenti difficili. Hanno un bravissimo cantante, e non lo dico solo io, perché l'hanno detto tantissima gente di Padova domenica al concerto, e soprattutto hanno una grande umanità, e questo lo stanno dimostrando con gli anni, col tempo. Io non loro, come sa Andrea, non li reputo una cover band dei Nomadi. Infatti io li chiamo Status Symbol, non una cover, lo sono, è una bellissima cosa, ma la reputo una bellissima band, perché hanno fatto anche bellissimi pezzi inediti, e soprattutto hanno un grande stile ed è loro, non imitano nessuno, e questo è molto bello. A Mattia sono cresciuti i capelli adesso. Hai detto delle grandi parole, ti ringraziamo grazie, tutti Salvo. Quanti, Salvo. Quindi, poi so che portano avanti dei grandi progetti sociali, per Haiti, Augusto per la vita, e Andrea è un ragazzo che veramente, penso che lo stanno già prendendo, lui lo sa, perché comunque sono già stati inseriti, non so se si può dire, penso di sì, spero di sì, di non fare qualche brutta figura, al 50° dei Nomadi. Penso che sia un bellissimo riconoscimento da parte loro. Poi l'altra sera hanno avuto un grande ospite, non me, un altro ospite, e quindi penso che anche per loro gli sta ritornando un po' tanti riconoscimenti a poco, perché meritano veramente tanto. Ci sono tantissime band che fanno quello che fanno loro, ma è un modo diverso di farlo, perché loro comunque hanno sono stati miei ospiti a Domodossola con Carletti dei Nomadi, Gatto Panceri, comunque, e si sono comportati veramente di alto livello umano, e penso che prima dell'artista arriva l'umanità, e loro posso garantirvi che hanno una grande umanità. Li sto conoscendo pian piano, il 7 giugno sarà la loro presentazione, e ogni volta con loro scopro qualcosa di nuovo ed è molto bello. Quindi anche per me, che ho 15 anni di storia, è vero, il cantante della sua età, però da loro impari veramente molto, e questo è molto bello. E io ti faccio una domanda un po' particolare, oltre a tutte queste belle parole, Salvatore, io volevo chiederti a te cosa hanno dato i Nomadi. Ma sai, io so che tu sei amicissimo. Ma guarda, io devo molto bene a Carletti, ti dico la verità, perché comunque ha fatto molto per me, è stato anche il mio produttore del disco che ho fatto. Certo. Quindi per me è una grande persona. Quindi è una grande persona, non posso dire, perché ha fatto tanto, ma non solo per me, ha fatto tanto anche per tanti tutti, altri ragazzi. Certo. Poi dico sempre a Agostino che comunque Carletti non è che può arrivare dappertutto, perché alla fine dove cerca a accontentare tutti lo fa. Quindi infatti, non è facile. Speravamo di averlo al telefono stasera, invece è impegnato, non ha potuto partire. Io so che veramente, guarda, posso garantirti che è veramente incasinato in questi giorni. Certo. Proprio, guarda, è un mese che quell'uomo lì è sempre in studio, sta facendo il disco nuovo, quindi parliamoci chiaro, tanto di cappello. E chi è il gruppo italiano che comunque, quando festeggia la propria storia, invita tutte le cover band a esibirsi, va in tutte le serate dove può andare gratuitamente, e questo Andrea lo può garantire anche lui, certo. Gratuitamente nelle serate a suonare, capito? Magari sta lì anche tutta la sera, come ha fatto con il 9 marzo. Chi è l'artista italiano che fa queste cose? Chi più di Beppe Carletti, la storia dei Nomadi, capito? Certo. Poi, per me ha fatto molto, sicuramente, ha fatto molto per tanti altri ragazzi. Poi io penso che ognuno poi si deve creare la sua storia, la sua strada, e riuscire a portare avanti. Poi io penso che nella vita, per andare avanti devi avere qualcosa da dire, se non hai niente da dire non vai avanti. Poi ci sono persone che continuano a parlare e rimangono lì, ma per andare avanti devi arrivare nel cuore della gente, avere un qualcosa da raccontare e da dire ed emozionarsi. Gli Status Symbol, per cambiare discorso, lo stanno facendo, certo. Soprattutto con le bellissime canzoni inedite che io ho sentito, sono convinto che faranno veramente bene, perché si stanno creando una propria strada e un proprio gruppo. Salva, volevo chiederti una cosa, se puoi spiegare qui un attimo ad Agostino il tuo tour 2013, il cuore della gente, puoi spiegare un attimo i progetti che stai portando avanti, perché i nostri sono piccoli, i tuoi sono più grossi, quindi è giusto sapere bene. Io quest'anno l'anno scorso abbiamo donato praticamente 30.000 euro all'Università di Bologna, al ricercatore Roberto Tonelli, con il CD Sempre in Volo, prodotto dai Nomadi, l'edizione e produzione di Nomadi. Quest'anno abbiamo il cuore della gente, abbiamo consegnato un progetto a Don Gallo, che io lo saluto con tutti gli ascoltatori, Don Gallo che è scomparso pochi giorni fa, ma è stato un uomo che veramente ha fatto veramente grandi cose. Io ti dico, io mi reputo un ragazzo fortunato, perché comunque come cantante della solidarietà ho avuto tantissime collaborazioni dei City Angels, Don Mazzi, Don Gatto, Nomadi, comunque ho aperto i concerti di Ruggeri, i miei ospiti sono stati gli ospiti di Sandro Giacobbe, e quindi mi reputo un ragazzo fortunato. Quest'anno il nostro progetto è la raccolta fondi nelle piazze italiane, dove tutti i fondi verranno destinati o fondi, oppure generi alimentari, oppure qualsiasi tipo di materiale che ha bisogno delle comunità che si occupano di tossicodipendenti e di disabili di salute mentale. E quindi noi quest'anno abbiamo deciso di fare questa cosa qua. Abbiamo già consegnato tre progetti abbiamo già consegnato da gennaio, ma questo grazie al cuore della gente. Infatti si chiama Il Cuore della Gente Tour. Vieni anche a Padova a fare questa manifestazione? A Padova siamo stati ospiti di Stato Simbolo domenica sera. Domenica che io ero in Piemonte. Tu eri a Padova, anche sei piemontese. Ma non detto che tu eri via questi detto. Poi guarda, poi sarò ospite loro il 7 giugno. Andrea, vale, di Stato Simbolo mi stanno dando veramente una grande mano. Questo a loro devo molto. Infatti sono fiero di aver collaborato nel loro disco. Infatti invito tutti gli ascoltatori di ascoltare questi ragazzi. E sono qui per farsi sentire, insomma. Ah sì, diciamo, bisogna dire anche questo. Sono contento che li avete invitati, perché meritano veramente tanto. Certo. All'interno del disco non hanno... sono loro parente, perché li vanto così tanto, perché... no. Senti, li vanto tanto perché questi ragazzi meritano veramente tanto. La facciamo una serata proprio totalmente dedicata ai Nomadi, una sera con te e assieme a loro, magari no, più avanti possiamo fare anche una serata dedicata al cantante della società di Stato Simbolo e facciamo tributo ai Nomadi. Certo, ti va di venire giù? Sicuramente. Assolutamente. Io sono sempre disponibile per loro, perché sono dei bravi. Loro sono venuti anche alla mia serata a Domodossola, hanno fatto tanti chilometri, sono piaciuti tantissimo. Certo. Quindi penso, è un po' l'interscambio che ci stiamo facendo uno con l'altro, quindi è nata veramente una bellissima collaborazione. Anche loro hanno collaborato in un nuovo disco che io presenterò a settembre. Che lo voglio avere, me lo farai sentire? Sì, abbia fatto un disco di cover, abbia fatto un tributo a Guccini, un tributo a Ligabue, un tributo a Carletti, quindi abbia fatto un po' un insieme di canzoni, un tributo a Bennato, e anche loro sono suonato in questo disco, quindi certo. Vedi, è nata una bellissima collaborazione, e questo è bello nella musica, perché c'è una bellissima collaborazione, non c'è una gara artistica o musicale. Infatti ho visto anche domenica sera l'ambiente che hanno creato, è stato veramente fantastico, perché siamo saliti sul palco, si è cantati insieme, la gente si è divertita, la tanta gente che c'era, perché c'era molta gente presente, si è divertita. E poi ripeto ancora una volta, il loro cantante è veramente bravo, ha un'estensione vocale che arriva al cuore della gente, questo lasciatemelo dire. Grazie Salva, ed è un piacere averti all'interno del nostro disco anche tu. Noi abbiamo fatto una bellissima canzone insieme, abbiamo duettato insieme, Nel Vento del Nord. Sì, ma infatti io il vostro disco lo apprezzo molto, e ho apprezzato veramente tanto la musica inedita che avete fatto, quindi, perché viene fuori da voi. È una continuazione delle canzoni dei Nomadi, se posso permettere di dirlo, capito? Quindi è un pezzo di storia vostro che continua con la vostra penna e la vostra carta. E questo penso che sia la cosa più bella per un cantante, un artista, un musicista, quello che sia, o un comunicatore di messaggi positivi, ecco. Salvatore, noi ti ringraziamo e lasciamo lo spazio a loro per far sentire anche la loro musica, le loro voci. Io vi saluto, vi ringrazio di cuore. Ciao Salva. Ciao Salva, grazie ancora. Sempre gli amici di tutto il Veneto. Grazie. Abbiate fiducia, che nella vita c'è molta gente di cuore. Certo. Grazie. Ti aspettiamo, grazie. Ti tengo anch'io, non ti preoccupare. Grazie di cuore. Ciao. Già l'Antonella mi ha detto, mi scrive, spero presto la serata dedicata ai Nomadi. Allora Antonella gli ho risposto, stai lì perché ora si scatenano. Ce la fate due o tre canzoni di seguito dei Nomadi? Sì. Io volevo presentare la prossima canzone. Il titolo è Auschwitz. Ah, bellissima. Non dimentichiamo mai, mi raccomando. Bellissima. Devo solo dire una cosa: Auschwitz l'hanno portata al successo, l'Equipe 84. E c'è Beppe Carletti che ha sempre detto che Maurizio Vandelli è il principe. Era considerato sempre il principe, cioè di un certo livello, mentre Beppe Carletti era meno, un po' più alla buona praticamente. Il principe Auschwitz, cantata dai Nomadi, e Auschwitz è un pezzo di Francesco Guccini, da folk beat numero uno. E anche quello c'è un aneddoto, ma me lo dico dopo perché è molto più lungo. Sentiamo Auschwitz. Comunque a me piace chiamarla la canzone del bambino del vento. Sì, lo titolo originale è la canzone del bambino del vento. Piace proprio così, perché ha un senso proprio, sì, è molto molto importante. Esatto. Molto importante. E allora partiamo con Auschwitz, la canzone del bambino del vento. Thank you. altri cento sono morto, ero bambino, passato per il cammino, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. E ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento. E adesso sono nel vento. E ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento. Io chiedo, uccidere un suo fratello, eppure siamo a milioni, in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento. E ancora buona il cannone, e ancora non è contento di sangue, bestia umana. E ancora ci porta il vento, e ancora ci porta il vento. Io chiedo, quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare il vento? Si poserà e il vento si poserà. Io chiedo, sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà. vi leggo solo questa frase: ti rendi conto che con tutte le emittenti della zona io ascolto voi, abita Macerata, quindi pensate un po' nelle Marche. Allora, ciao Antonella, e saluto anche Marco Ragni, Nicola Ferrauto, Barbara Gasparini e la mia carissima amica conosciuta a Sanremo, Vanessa Pugliese. Ciao ragazza e buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto con Agostino, con Maurizio, ma soprattutto con gli Status Symbol. Questa è una canzone simbolo proprio di Cuccini e dei Nomadi. Sì, questa è una canzone che ci deve ricordare sempre di non dimenticare mai quello che possiamo arrivare a fare, esattamente. La cosa bruttissima. Esattamente. Sono pienamente d'accordo con te, Mattia. Questo era un tratto da un album dal vivo, l'unico album dal vivo che i Nomadi fecero assieme a Cuccini nel 1979. Disco meraviglioso che doveva avere un disco numero due, ma per divergenze tra Dodo Veroli e per Luigi Farri, che è il produttore di Gucci, non andò avanti il progetto. In ogni caso, Canzone del Bambino nel Vento, Auschwitz, è il pezzo centrale, culmine di questo album. Dobbiamo ricordare che il pezzo fu inciso dall'Equipe 84, come abbiamo detto prima, da Maurizio Vandelli, il principe, che firmò lui il pezzo. Lo firmò lui. E per 40 anni c'è stata la diatriba legale tra Maurizio Vandelli e Francesco Cuccini, appunto per questo pezzo. In ogni caso, la versione di Auschwitz è molto emozionante, come l'ha data stasera Mattia. Sì, che Augusto la dava emozionante. E Mattia l'ha fatta emozionante, perché doveva essere un pezzo emozionante. L'hanno scritto anche qui: brividi, brividi di più. Esattamente. Bravo Mattia e bravo tutta la band. Grazie. Chiaramente. Gli strumenti sono caldi e io voglio ancora sentire gli Status Symbol cantare e suonare. Cosa ci fate sentire adesso? Beh, io vi faccio sentire noi. Io voglio vivere un pezzo storico. Beh, questo dei Nomadi, 2003. Testa, 2003, singolo, è un singolo pubblicato solo in un'antologia. È stato pubblicato come singolo nel 2003. E come sentite, saltiamo dal palo in frasca, come si suol dire, dalla vecchia discografia dei Nomadi a quella un po' più recente. Esatto. Quindi facciamo un po' di tutto. Quindi buon ascolto. Poi c'è anche quella canzone che mi piace tanto, che poi Mattia me la canta. Dopo facciamo. Sì, me la fa, okay, sono okay. Sicuro. State lì. Ormai l'ho promesso. Scorre dentro il silenzio il senso, il profilo della vita è tra le cose, anche il buio serve ad immaginare la ragione che ci invita a provare. So che può far bene anche gridare per riscattare l'anima dal torpore. So che ad ingannarmi non è l'amore, che voglio amare, io voglio vivere. Ma sulla pelle mia io voglio amare e farmi male, voglio morire di te. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia io voglio amare e farmi male, voglio morire di te. Il mio equilibrio sempre un po' precario, libero l'istinto, ciò che mi sostiene, emozione nuova senza nome, la ragione che ci invita a continuare. Per questo problema non ho soluzione, io mi sento vittima e carceriere. So che ad ingannarmi non è l'amore, io voglio vivere. Ma sulla pelle mia io voglio amare e farmi male, voglio morire di te. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia io voglio amare e farmi male, voglio morire di te. Io voglio vivere, sulla pelle mia. Io voglio amare e farmi male, voglio morire di te. Quanto ti piace cantare questa canzone, Mattia? Da 1 a 10? 11. No, 1000. Si vede proprio come tieni il Augusto microfono. Augusto diceva in Auschwitz quando la presentava, è una canzone inossidabile. Io penso che anche questa resterà una canzone inossidabile. Sì, la canzone inossidabile del secondo periodo. Dopo sentiremo la canzone più inossidabile di tutti, però questa è la seconda canzone inossidabile dei Nomadi, secondo me. A mio parere, secondo periodo con Danilo Sacco, eccetera. L'hai interpretata molto bene, con molta enfasi, come tutti quanti stasera. I Nomadi hanno questa capacità di portare, di fare andare avanti, di andare su, di elevarsi, secondo me, in alcuni momenti, musicalmente parlando. Ah sì, infatti io volevo dire prima, quando ha detto Salvatore, che noi abbiamo il nostro stile, però dobbiamo dire grazie ai Nomadi, perché certo, se non fossimo partiti col tributo ai Nomadi, non saremmo qui oggi. O magari ci saremo, però in un altro stile. Io volevo chiederti una cosa, Andrea. In base a cosa scegliete le canzoni da fare le vostre versioni dei Nomadi? Insomma? In base c'è una simpatia particolare o quello che vi piace di più? Beh, scusami, Andrea. In base al cuore e alla voce di Mattia. in base anche alla tonalità, perché i live, lo sai bene, Agostino, non sono tutti uguali, certo. Non lo sono mai. Però avendo un repertorio vastissimo in Nomadi, potete attingere un sacco di canzoni. Assolutamente sì. Quindi non avete, voglio dire, avete l'imbarazzo della scelta. Esatto. Beh, noi diciamo ci basiamo su quello che propongono nei concerti, vero Andrea? Sì, diciamo che la gran parte del nostro repertorio viene ritratto da Nomadi 40. Poi il rimanente brani che diciamo copiamo, facciamo la cover loro, è dal concerto che hanno fatto di Omnia Symphony. Poi cerchiamo di riproporre quello stile lì, diciamo. Infatti Nomadi 40 fa parte degli Io Vivere, praticamente. Esatto. Voglio vivere da Nomadi 40. Sì, uscito con Nomadi 40. Sì, esattamente. E poi ci sono dei pezzi come, per esempio, Io Voglio Vivere, che non manca mai all'interno dei concerti dei Nomadi. Altre canzone per un'amica, Dio è morto, Io Vagabondo, quelli non mancano. Vabbè, mai Io Vagabondo è Vagabondo, sta il finale di tutto, è sempre il finale, state lì, non dovete muovervi dagli apparecchi, che la cantiamo tutti insieme, anche tu Moritz, insieme. Non penso proprio, meglio di no, assolutamente no. Cosa facciamo ascoltare adesso? Voi Agostino, che facciamo sentire l'altro pezzo inedito? Cosa dite? Volete riposarvi un po'? Certo. Sentiamo Chiedilo al mio cuore, dai. Chiedilo al mio cuore, che è la numero 9. Sì, la sentiamo 9. Prima e poi ne parliamo, cosa dite? Sì, dai, sentiamo. Okay. Prima lasciamo che ascoltino tutti, poi ne parliamo, e se qualcuno ha da commentare mentre parliamo commenta, dai. Certo. Sottolineiamo il fatto che questa è una canzone, questo brano è una canzone inedito dal loro nuovissimo disco degli Status Symbol, che si chiama Liberi di Essere. Ci sono tre canzoni inedite, questa sera ve le faremo sentire tutte e tre. La prima le abbiamo già ascoltate, cioè era Liberi d'Essere, e adesso ci ascoltiamo questa Chiedilo al mio cuore, Status Symbol. Camminando tutto solo per il mondo, tra il mio essere, il mio dire ed il mio fare, calpestando i valori di un amore, mi ritrovo qua, cavalcando fino in fondo all'orizzonte, per trovare quello che credevo fosse la libertà. La libertà, tu chiedilo al mio cuore, quanto fa male ritrovarsi soli dentro di sé. Tu chiedilo al mio cuore, quanto fa male sentire il fuoco scorrere dentro di sé. Per la strada e cambiando poi di colpo direzione, il pensiero va, nei ricordi prendo vita nella mente, da non far sembrare vero anche il presente, che male fa pensare a noi. Al mio cuore quanto fa male ritrovarsi soli dentro di sé, e abbiamo capito seduti in un bar che non siamo. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Mi correggo subito, sono due le canzoni inedite, l'altra invece che faremo sentire è proprio la loro versione dal disco, che sentirete come l'hanno riarrangiata, insomma. Ma forse la suonano dal disco, forse. Forse. Io ho un'altra scaletta qua. No, non sei si sa mai. Cerco di rompere sempre. No, non suonano. No, non è che rompi, li corrompi. Sì, ma anche quello. Beh, parliamo allora di questo pezzo inedito, ragazzi. Mattia, dimmi qualcosina. Sì, dai. Premettendo che i tempi d'oggi non è facile scrivere canzoni, delle belle canzoni, perché la bella musica è già stata fatta. Non è vero. Dai, se ti dico il mio punto di vista. No? Certo. È nata così, no? Mentre stavamo facendo fiorire, si può dire così, liberi di essere, Andrea mi diceva, però ci vorrebbe un'altra canzone. Una ballad, soprattutto. Io ho preso la chitarra e ho detto, senti questa qui. Questa strofa, questo tuo ritornello. E subito mi ha detto, bene. Però, e poi siamo andati avanti ed è nata Chiedilo al mio cuore, che è un po' un'esperienza personale, no? È un'esperienza. È una cosa personale. Autobiografica quasi. Esatto, so. Esatto. È un piccolo tassello della mia vita, no? Che mi ha dato modo di pensare. Non sempre i mali vengono per nuocere. Ti aiutano a capire certe cose. Assolutamente sì. E a scavarti nel profondo, no? Ed è nata Chiedilo al mio cuore. E cioè, hai un'introduzione all'acustica, la fai te, Filippo, l'introduzione all'acustica, poi lentamente prende piede. Beh, la tua voce è sempre presente. La tua voce è importante perché è al centro, gli strumenti ruotano attorno alla tua voce, continuamente ruotano. Ed è questo l'effetto che deve fare un cantante, a mio parere. La voce deve essere al centro, gli strumenti dietro, non tanto dietro, abbastanza vicini, ma che devono ruotare, che devono dare il letto giusto perché il cantante possa dare la potenza vocale. Esattamente. Questa è la penso così io musicalmente. Devono sussurrare. Devono essere sussurrati. Non devono essere sussurrati, però. Nel caso del suo pezzo. Il suo pezzo sì. Parte molto parlato, sentito dal cuore, devono essere sussurrati. E poi è importante questo pezzo perché l'avete arrangiato. Cioè, tu ci hai messo molto anche te, Andrea. Però l'avete. È stata una roba di comunione più che il pezzo precedente, secondo me. Esatto. Anche perché è partita così da una cosa inaspettata. Andrea non se l'aspettava, perché è stato proprio mentre all'inizio di Liberi di Essere lì a casa sua ed è nata così al volo. Certo. Penso di averci azzeccato un po'. Ma è bello sempre che è venuta fuori così. Dimmi. Perché mi ci sono appassionato dietro per arrangiarla bene, perché mi è arrivata subito. Ecco, appunto, parole anche all'arpeggio che aveva. E poi io ho scritto nella recensione, io nella redazione più che io, che assomiglia, cioè si accompagna, prende idea da quelle belle canzoni avvolgenti, lente della tradizione nomadi, nel senso positivo del termine. La tengo in sottofondo. La tieni in sottofondo, benissimo. Un omaggio a Mattia. Grazie. Poi la fai sentire bene, però, sennò la sentono gli ascoltatori. Non te ne hai in sottofondo. Ma l'abbiamo già fatto sentire, quindi insomma. Sì, beh, poi la faremo sentire poi, perché verrà messa in programmazione molto probabilmente. Ah, certamente. Visto che no, ma lasciamola andare, Agostino, falla sentire bene. Ancora? Parliamo dopo, dai. Cavalcando fino in fondo all'orizzonte per trovare quello che credevo fosse la libertà. La libertà. Chiedilo al mio cuore. Chiedilo al tuo cuore, insomma. Esatto. Ti emoziona però parlare di questa canzone, esatto, si vede, sai. Esatto, è una cosa che è mia, no? Certo. Beh, giusto. Vuol dire molto. Una classica è pura. E sicuramente canzone. Non è facile cantare in un live. Immagino. No, è difficile. Adesso facciamo una cosa che piace molto ad Agostino. Fa la domanda? No, è un pezzo che ti piace particolarmente. Pensavo di fare quella domanda, ma stasera abbiamo i tempi un po' ristretti perché le canzoni che ci vogliono proporre sono tantissime. Vi ricordo, Blu Radio Veneto con Agostino Spolaore, con Maurizio Calzavara, ma soprattutto con gli Status Symbol che presentano in anteprima il loro nuovissimo disco che esce in questi giorni. Cosa ci fate ascoltare adesso? Quella che piace a me? Sì, facciamo sentire. Allora sono io che mi commuovo. Esattamente. Adesso. Questo è da un giorno insieme del un giorno insieme del 1973. È una cover. E Augusto sceglieva sempre le cover in una certa maniera. Cosa dici, caro batterista? Mi dici di sì, sei d'accordo. E sei un po' lontano. Ma sceglieva sempre le cover in una certa maniera. Alla Bianca non era tanto semplice come cover. E la scelta lui, Alla Bianca, è tratto dal primo disco di Elton John. John, Topi and John praticamente sono gli autori, e Augusto sceglieva sempre le cose un po' particolari, diverse, e questa è una cosa diversa. Stagioni non è un pezzo semplice, un pezzo difficile anche come arrangiarlo, vero Andrea? Sì, difatti inizialmente lo facevo proprio a livello strumentale, come era, lo faceva Beppe insieme a Christopher. Esattamente. E poi però diventa una cosa in live che è un po' complicata, diciamo, perché mentre sei in un disco puoi anche farlo, ma in un live lo hanno fatto in due, e se sono fatto in due c'è un motivo. Un critico ha detto, non so se siete d'accordo, che spazia nell'ambient, siete d'accordo? Sì, specialmente la parte iniziale. Esattamente. Prima del pianoforte. La sentiamo, cosa dite? Certo. Sentiamo solo la parte di piano e violini insieme. Vabbè. Io spengo la luce. Ok. E voi state lì a casa perché vi emozionate con una delle più belle canzoni di nome, almeno per quanto mi riguarda, il mio modestissimo punto di vista. E gusto, ovviamente. Stagioni. Ecco che il tempo cambia già, comincia qui un nuovo ciclo ormai. Sento che la mia stagione è qui, freddo ma c'è un fuoco accanto a te. Di fuori no, suono non c'è più. Le stagioni stanno dormendo intorno a noi. occhi bravi. Come strano essere amanti io e te. Eravamo solo amici. E così la vita cambia in me. Io amo te, la mia parola è sì. Impazzirà nel buio la città. E chiaro c'è che pace insieme a te. Ma come mai fugge già, le stagioni ora sono realtà. È tornato il vento e l'amore va, come strano essere amici io e te. Eravamo ieri amanti. John Lennon diceva: la musica è di tutti, solo gli editori pensano che appartenga a loro. Questa credo che appartenga a tutti. Stagioni, una canzone bellissima, Maurizio. Io la adoro, non so te, ma insomma a me piace tantissimo perché mi emoziona. Un po' come diceva prima Mattia e come diceva anche Andrea, ti prende subito, insomma, questa canzone. Sì, ripetiamo che è importante perché Augusto sceglieva sempre le cose in una certa maniera. Difficili. Perché le cover di Augusto non erano semplici, però con molta intelligenza. Augusto era un ricercatore, Andrea, possiamo dire. Non era un cantante, era un artista, era un pittore, era un poeta. Un poeta, non era un cantante, era un frontman per modo di dire. Insomma. Ma vedi la differenza? Che per noi sono difficili magari, ma per lui è una cosa di tutti i giorni perché le sentiva dentro. Sì, le sentiva lui dentro. Lui esternava quello che aveva dentro. Esattamente. In una maniera o nell'altra, cioè o nella pittura, o nella scrittura, o nella poesia, o nel parlare, o nel dialogare con le persone del pubblico, lui esternava questo. Cari ascoltatori, voi dovete sapere che quasi tutte le copertine, quando c'era Augusto, le scriveva lui, le disegnava lui, poi venivano chiaramente stampate, le disegnava lui. Tutti i singoli dei Nomadi, periodo Augusto, li aveva disegnati lui. Beh, era una cosa meravigliosa. Io ho davanti proprio la pittura della gente come noi. Esattamente. Da cui hanno fatto anche il DVD, perché certo. Merita tutto il DVD proprio. Com'è la vita, la vostra vita all'interno del vostro gruppo? Ma cosa vuoi, ci prendiamo a schiaffi tutti i giorni? Dice, insomma. No, abbiamo delle vite abbastanza diverse, no? Perché ognuno di noi fa un certo lavoro. Però sì. Diciamo che rompo abbastanza le scatole per telefono. E qui concordo appieno, sì. Vero Filippo? Sì, e qui parlo anch'io, sì. Sono veramente d'accordo. mi hanno detto che sono il collante, però fino a un certo punto, perché dopo rompo le scatole. No, beh, scusa Mattia, se posso dire una cosa. Il ruolo di Andrea in questo gruppo è sicuramente fondamentale e di organizzazione dal basso fino all'alto. Dopo noi ci mettiamo chiaramente la passione e la voglia di portare avanti un progetto, quindi è importante sicuramente il lavoro di tutti, però Andrea è quello che spinge di brutto, ecco, così è quello che organizza tutto, assolutamente, sì. Diciamo che sono quello che prendo parole. Lui è quello che si prende, come si dice, ordini di onori, no? Sì. No, guarda Filippo, che forse hai sbagliato prima, non è il collante, è la super attack. No, comunque ci tengo a dire, Agostino, ringrazio anche Filippo di quello che ha detto, anche Mattia, e anche comunque parlano loro, perché Claudio non ha il microfono in fondo, dov'è? Però io sono dell'idea che il singolo è il singolo, ma il gruppo, se non è un gruppo vero, infatti, di cuore, di animo, non va da nessuna parte. Infatti. E quindi, questo penso che lo stiamo dimostrando giorno per giorno, ma non per farlo vedere agli altri, ce ne stiamo rendendo conto noi, ed ecco da qui che nasce il discorso del disco, degli inediti. Cioè, ci rendiamo conto che siamo in grado di creare qualcosa insieme. Questo per me secondo me è molto bello, insomma. E non, non solamente un giorno insieme, tanti giorni insieme. Speriamo. Speriamo. Beh, abbiamo fatto per costruire questo disco, ci sono volute molte ore, molti giorni, in molti momenti strani della giornata, perché tutti dovevamo far combaciare impegni, certo, orari e cose. Non è mai facile, ci vuole veramente... veramente voglia, ecco così. E quindi dove l'avete registrato questo disco? Allora ti dico le fasi. Allora, sì. Siccome ovviamente noi siamo piccoli, non abbiamo risorse finanziarie enormi, diciamo, e facciamo tutto con i nostri sforzi, diciamo, no? Con quello che riusciamo a mettere via, con i nostri lavori, tutto quanto. La parte, diciamo, di batteria e di voce, la voce è stata la parte finale, abbiamo fatto in collaborazione con BR Records di Silea Treviso, che è uno studio di registrazione, grafica e quant'altro, collabora anche a livello importante con le basi per i ragazzi di Amici, collaborano a livello con i festival show, quindi siamo a livelli abbastanza importanti, no? All'interno loro c'erano anche degli editori, quindi, che stanno visionando appunto il nostro disco, perché non si sa mai che il prossimo non venga edito, diciamo. Esatto, ecco. Stampato alla grande. Sì. Esatto, comunque è così. Poi per quanto riguarda la parte del basso, tastiere e basso e tastiere, abbiamo fatto tutte, diciamo, nel mio piccolo studio. In casa praticamente. Le elaborate tutte. Io posso dire che ho lavorato di notte. Sì, infatti quando noi siamo in chat su Facebook è l'una e mezza, due della notte, siamo lì che, oppure ci telefoniamo, vero Andrea? No, ma ti dico, guarda, c'è gente che mi dice, mi scrive addirittura, ma come cavolo fai a essere sveglio? Ho una famiglia, io perché ho due bimbe piccole che le saluto, anzi Giulia e Alessia, e anche Arianna che è mia moglie. E che porta pazienza, perché faccio il musicista come secondo lavoro, come attività proprio, quindi sono impegnato su due versanti. E tra le bimbe la mattina e il lavoro e poi la sera la musica ti porti via tutta la settimana. E di notte io ho la fortuna, sfortuna, che da quando ero giovane mi ero abituato a studiare, a lavorare, no? Più di 3-4 ore a notte non riesco a dormire, insomma comincio a fare mal di testa, mal di schiena, quindi di notte è il mio momento per creare, insomma. Si chiama passione. Penso anch'io che sia passione. So qualcosa anch'io come orari. Comunque guarda, qua all'interno del gruppo c'è Filippo, è chitarrista nostro, il nostro amico, che lo fa come lavoro, quindi anche lui deve avere una passione innata per la musica. Sì, quindi... preciso, ci sto provando. Vabbè, insomma, è già un primo passo buono. Però la passione spinge a provare, capito? È importante quello. Cosa ci avete preparato adesso? Adesso hanno preparato una cosa meravigliosa. È quella. La chicca del disco che mi hai detto prima, no? Ah, volete sentire, fare sentire suoni? Sentire, perché non abbiamo il violino. Facciamo sentire suoni allora. Che traccia è, mi pare? È il numero 8. È il numero 8. Sentiamo suoni, che è una versione, io ho detto, celtica. Sì. Perché è una versione celtica, secondo me. La versione di Augusto era molto psichedelica. Era un po' particolare, aveva lui, come si può dire, Andrea, non cantava, accompagnava, ecco, il lui suono. Esattamente, un pezzo molto molto bello, che era un singolo, doveva avere un'idea diversa, però rimase un singolo molto apprezzato dai Culturi dei Nomadi. Cosa dici, batterista? Ti vedo perfettamente. Okay. Soddisfatto. Okay. Sentiamo allora suoni della versione. Dimmi. Maurizio, noi l'abbiamo racchiuso dentro il disco, anche un po' azzardando, diciamo, perché i suoni io lo tengo come un cimelio, capito? Sì, non è un pezzo semplice, assolutamente. No, perché è proprio, ma più che altro non è stato concluso da Augusto. E quindi per rispetto non voleva. C'è stato un dibattito all'interno del gruppo. Mettiamo o non mettiamo per rispetto di Augusto, no? E poi ho detto, ma se noi le cose le mettiamo sopra la scrivania, la gente non le ricorda, capito? Certo, giusto. Quindi rischiamo, cerchiamo di fare del nostro meglio, ci mettiamo sempre come sempre il cuore e l'anima e vediamo che risultato viene. È un pezzo, secondo me, è venuto fuori molto molto bene, a mio parere. Lo sentiamo. Adesso lo sentiamo, sì. Dal disco questo. Dal disco. Non dal vivo, quindi quando acquisterete il disco. Io avevo tentato, ma non è stato possibile, assolutamente. Meno male. Non è stato possibile. Allora, suoni dal vivo, Status Symbol, no, ma suoni dal disco, Status Symbol. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. E dinanzi a tanta bellezza, cosa si può dire, Maurizio? È un pezzo che io ho amato particolarmente. Nomadi mi sono sempre piaciuti, ma suoni perché? Perché in questo pezzo, secondo me, Augusto sperimentava anche vocalmente. E voi l'avete ricostruito in maniera folk, poi con un finale al piano, caro Andrea. Sembra un piano impressionistico della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, alla Satie, alla francese. Questo piano che aveva un certo senso, pezzo molto bello, ricordiamo il violinista, ha fatto un lavoro superbo. Filippo Maretto, maestro Filippo Maretto. Filippo Maretto ha fatto un lavoro bellissimo e parlavo con Filippo, l'altro Filippo che è qui presente, che questo pezzo somigliava molto ai dischi solisti di Mark Knopfler, quella versione molto celtica, molto di musica popolare, musica folk, soprattutto del fratello. Il fratello che ha fatto un disco folk molto interessante, poi è sparito dalla circolazione. Ricordiamo che il fratello faceva parte della prima formazione di Dire Straits e poi se n'è andato per fatti suoi. Ok, adesso facciamo un'altra cosa molto bella, dimmi. Eh sì, caro Maurizio, facciamo un pezzo che sento in particolar modo. Il grande Guccini scriveva Il vecchio e il bambino. Scusa se ti interrompo, ma credo sia bellissimo farvelo sapere. Ci stanno ascoltando dall'Indonesia. Bandung si chiama il paese. E ci ha messo mi piace sulla canzone. Addirittura. Sì. Bene, che bello. Fa piacere. Allora, stavo dicendo, Grande Guccini scriveva Il vecchio e il bambino. E io e Filippo vi siete innamorati di questo pezzo. La riproponiamo. Dimmi. Quante volte hai sentito Radici di Guccini per poi riprendere Il vecchio Guccini? Ma vecchio diciamo che me l'ha fatta scoprire Andrea. Tu l'hai scoperta grazie ai Nomadi, chiaramente. Esattamente, sì. Guccini l'ha scrisse da Radici. Certo. Da Radici, che è un album storico di Francesco Guccini. E c'è una particolarità, tu lo sai. In qualche concerto Augusto veniva accompagnato da un bambino. Esatto. Il vecchio, il bambino. Esattamente. Non sapevo che avevate dedicato una canzone al mio collega Maurizio, Il vecchio e il bambino. Potevamo fare stagioni era per te, l'avevi chiesta prima. Dobbiamo dire che la versione di Augusto aveva una versione quasi circense, molto bella, molto particolare. Sentiamo la versione di Status Symbol. Stasera, ore 22:21. E salutiamo Elena Semenzato, Orietta Tofolon, Gabriella Rossini e Cosetta Provasi. Prego. In questa pianura fin dove si parte crescevano gli alberi, tutto era verde, cadeva la pioggia, segnavano i soli, il ritmo dell'uomo, delle stagioni, bimbo, mi stette lo sguardo, gli occhi guardavano cose mai viste, e poi con voce insegnante, mi piacciono le fiabe, raccontane altre. Sempre, sempre e sempre, ancora sempre emozionante questa canzone. Insomma, sono la nostra storia, Maurizio, senza sì, offesa, nel senso proprio buono della parola. Soprattutto in questo pezzo è la mia storia, perché Radici l'ho sentito un sacco di volte e ho sentito un sacco di volte l'interpretazione che ne ha dato Augusto. Ricordiamo che questo è del 1974 e c'è una cosa importante del 74 di Nomadi. Arriva il violinista Christopher Patrick Dennis, molto importante. Poi se n'è andato per polistrumentista. Polistrumentista, violinista e chitarrista, che l'ha scoperto Toddy Veroli, che era il produttore dei Nomadi, a Roma praticamente. Pezzo molto bello, e questo qua inciso da un disco quadrifonico, per la storia, per l'aneddoto, è il 165esimo disco quadrifonico mondiale. Io ne ho ancora gente da salutare, che ci stanno mettendo mi piace continuamente. Uno è Matteo Quassin, che poi tra l'altro è un musicista anche lui. Poi c'è Elisa Bonomo, c'è Orietta Toforo, va bene, abbiamo già salutata prima. Poi ancora Giulia Daice, che è un'altra cara amica di questa emittente, una cantante triestina. Poi c'è Giancarla Benaglia ed Elisa Spagolla. Dobbiamo sottolineare una cosa. Augusto ha dato ed Elena Semenzato, scusa Maurizio. Certo, Augusto ha dato magia in questo pezzo, ma anche Mattia, assieme a Filippo, ha dato magia. Questo è un pezzo magico, sì. Assolutamente magico nella versione di Augusto e anche nella versione di Mattia, di Filippo. Ricordiamo, questo pezzo è stato suonato da Mattia, cantato, e suonato da Filippo alla chitarra acustica. E la magia è proprio questa, secondo me. La semplicità. La semplicità. Esattamente. Grazie. Più le cose sono semplici, più arrivano. Ce l'avete ancora una canzone che poi ci salutiamo? Sì, posso fare una dedica? Sì, io la dedico certo. A tutti gli amici a casa, i ragazzi del villaggio Busonera, il mio amico Luca, detto il Magura, è un fans club, un fans nomade, e a sua sorella, e a mamma, papà, tutti quelli che mi stanno ascoltando. Come la si chiama la canzone? Io vagabondo. No, ma la facciamo per ultima. No, facciamo per ultima, ancora un'altra. Se ce l'hai... Se avete ancora un'altra. Non ce l'hai, non ce l'hai. No, non so. Avevamo preparato queste canzoni qua. Ma potete fare un reprise. Potete fare un reprise. Stagioni, non so. No, quello che volete. Potete fare un reprise. Dio è morto, non so. Ma... No, adesso il libro. Canzone per un'amica. Canzone per un'amica. No, non ce l'hai. No, più che altro siamo in assetto acustico. Un altro pezzo acustico. Fate quello che volete, dai. Se no, sentiamo Claudio cosa dice. Cosa dici, Claudio? Possiamo fare un reprise di uno dei pezzi che avete già suonato, dai. Io voglio vivere. Il ritornello di Io voglio vivere. E poi ci sentiamo per salutarci, certo, oppure andiamo dritti? Sì, no, ci sentiamo per salutarci. Allora, partite subito, prima però saluto io Paolo Parmigiani e poi ancora Valerio Pizzato, che mi ha fatto i complimenti e via, ha fatto i complimenti per una bellissima puntata, e grazie. Stefano Cannone Carta, che ci sta ascoltando, dice: sono riuscito a collegarmi appena in tempo per non perdermi gli ultimi minuti. Prego. Agostino, ricorda il sito, visto che ti stanno facendo i complimenti e noi siamo molto contenti, li ringraziamo. Puntualizza il nostro sito internet, che è www.status. Ma ne parliamo dopo la canzone, non ti preoccupare. Ah, dopo? Sì. No, che non vadano a letto. No, assolutamente. Domani si lavora. Vai con Io voglio vivere, poi torniamo con ci salutiamo e poi facciamo sentire Io vagabondo. Prego. Contro il mio equilibrio, sempre un po' precario, libero l'istinto, ciò che mi sostiene, emozione nuova senza nome, la ragione che ci invita a continuare. Per questo problema non ho soluzioni, io mi sento vittima e carceriere. So che ingannarmi non è l'amore, voglio amare, io voglio vivere, ma sulla pelle mia, io voglio amare e farmi male, voglio morire di te, io voglio vivere, ma sulla pelle mia, io voglio amare e farmi male, voglio morire di te, io voglio vivere, ma sulla pelle mia, io voglio amare e farmi male, voglio morire di te. Ci stanno facendo complimenti continuamente. Ci avete colto un po' di sorpresa. Ma perché? Ma... questo è bello. È lo spirito. Lo spirito è questo. Bisogna cogliere di sorpresa. Esatto. Bisogna cogliere l'attimo. Cogliere l'attimo, esattamente. Allora, c'è Iena che dice stupenda puntata, solo il meglio da Blu Radio Veneto, e chiaramente vi saluta. Poi ancora Paolo dice i nomadi nascono a 10 minuti da casa mia, qui oggi non il massimo, stanotte ci ha svegliato il terremoto purtroppo, e quindi insomma non è una bellissima giornata per loro, per la zona. Salutiamo, li facciamo in bocca al lupo, Abbiamo vissuto di persona proprio aiutandoli, ammirando l'anno scorso, quindi sappiamo quello che stanno passando. Certo. Mi sono sentito più giovane di 30 anni, scrivono. Vabbè. E poi ancora grazie, bravi loro, come sempre bravi anche voi. Insomma. Quindi... Grazie. Questo mi fa solo che piacere, Maurizio. Abbiamo fatto una bellissima serata questa sera e mi ha fatto piacere avere... E che non hanno cantato altre canzoni. Ma verranno un'altra volta. Verranno un'altra volta, allora proporremo altre cose. Quelle un po' segrete, un po' diverse, un niente po' strane. Ferie quest'anno in agosto e sarete qui, va bene? Ok. Facciamo qualche data agosto, poi va bene, incastriamo, non ti preoccupare. Allora, nel frattempo che sta per arrivare Renato, che non è ancora arrivato, i vostri dati, se qualcuno volesse contattarvi, quindi il sito e quant'altro. Allora, sito internet www.statussymbol.altervista.org. È un po' lungo, però dicevo prima non abbiamo i soldi, allora abbiamo gratis. Invece la mail è statussymbol@alice.it, telefono 333-650-6899. Esatto, e poi vogliamo ricordare il nostro evento il 7 giugno. Ah sì, scusa, bravo Mattia, vedi. A volte si dimentica. 7 giugno 2013 a Villa Mommis presentiamo il disco insieme a un'altra cover band dei Mercanti e Servi di Ferrara, insieme al cantante della Solidarietà, e c'è anche un ospite particolare, mi ha dato conferma l'altro giorno, Bila Coppellini, batterista dei Nomadi. Ah sì, quello dei primissimi anni, che sì, ha appena scritto il libro e porterà il libro in dimostrazione, chi vuole comprarlo. Villa Mommis Cavarzere, Venezia. Dimmi. E altre date poi, Andrea? Altre date, facciamo un evento di solidarietà, appunto torniamo sulla solidarietà, alla scuola dell'infanzia a Don Bosco a Pegolotto di Cona, raccogliamo fondi per ristrutturare l'asilo, perché è un asilo molto vecchio e ha bisogno di ristrutturazioni, i soldi non sono mai abbastanza. E poi siamo a luglio, ci prendiamo un po' di pausa perché appunto non possiamo dovete anche riposare, le mogli e le fidanzate ci uccidono. Abbiamo un bel agosto riempito con delle sagre a Crespino, a Rottanova, quindi dopo siamo a Cavarzere di nuovo e poi si comincia a lavorare per la tournée autunno-inverno, insomma, ecco. E il prossimo disco che avete intenzione di costruire, di fare, quando pensi più o meno di Adesso metterlo... vuoi sapere troppo, però... ma io so che uno si arriva da autunno, da autunno ci rimettiamo con il freddo, a parte questo. Che non è ancora arrivato il caldo, quindi sì. Vabbè, perché... insomma, deve ancora uscire questo poi tra l'altro. Esatto. Però guarda che siamo gente noi, quando ci mettiamo a fare queste cose li chiamo tutti a casa mia. Sì? Al cammino, in cucina ci mettiamo là costicine, salame ai ferri, polentina. Ma guarda che se, via, non so, e via. Se hai due sedie in più io e Maurizio non è che ti diciamo di no, eh. No, c'è solo spazio da Dai, ti invito la prossima volta. Dai. Sto scherzando, Andrea. Comunque, ma questo è lo spirito giusto per fare le cose fatte bene. Questo lo voglio sottolineare, perché quest'aria così amichevole tra di voi penso sia, come dire, un'immagine bellissima che date e che vi dà stimolo per continuare su questa strada. Certo. Adesso citiamo un aneddoto su questo pezzo storico. Non serve dire il titolo, lo conoscono tutti. Ma è un aneddoto molto interessante. 1972. Disco per l'estate. Nessuno sperava che vincessero i Nomadi, però è successo questo. Al primo posto i Nomadi con Io Vagabondo. I fotografi, che prima li avevano ignorati, andarono tutti subito dai Nomadi e girarono immediatamente l'obiettivo verso il gruppo. E Lavanoni scoppiò in lacrime e se la prese di brutto e disse: non è possibile che vinca un complesso. Vinsero i Nomadi con Io Vagabondo, che non sono altro, che poi diventò l'immagine della band, è ancora tuttora l'immagine della band. Un'icona che non morirà mai musicalmente, continuerà ad andare avanti. Allora, io Renato qui non vedo che non arriva, probabilmente ha avuto dei problemi. Possiamo allungare Io Vagabondo? Possiamo farla, poi magari peschiamo dal disco. Esatto. Oppure peschiamo subito. No, è meglio che. Potresti pescare dopo. Pescare Asia. Dal disco, cosa dici? La peschiamo dopo, oggi. Però adesso c'è abbiamo parlato... Ma se non arriva... Facciamo Renato. Il nostro dibattito. Sì. Dopo possiamo fare così. Possiamo fare due minuti scarsi di Asia dal disco e poi vi preparate per il gran finale. Cosa dite? Va bene. Per me è ok. Che traccia... Adesso vediamo, ti ricordi la traccia? La traccia mi sembra sia la... aspetta che guardo sul rigorosamente live qua c'ho il telefono, è arrivato un messaggio da Elsa Finotto che è la nostra super fan. Dito, bravissimi. Vego registrato in dialetto veneto. Beh, ne approfitto finché tu stai cercando i titoli, ne approfitto per dire che comunque numero 6 che tra qualche giorno sarà messo il podcast dell'intera intervista in versione integrale, veramente, quindi la potrete sentire, riascoltare ogni qualsiasi volta lo volete, perché sarà scaricabile e o ascoltabile gratuitamente, quindi non vi perdete niente se vi siete persi qualcosa. State lì che tra qualche giorno vi metto il podcast. Allora sentiamo un pezzettino di Asia dai Saturn Symbol. Beh, lasciala andare finché non arriva, dai. Okay. Perché c'è un punto centrale che a me, guarda, fa venire come si chiama in dialetto, diciamo? I penotti in dialetto. C'è un pezzo iniziale, Mattia ci ha messo tutto. Beh, Asia è un pezzo storico già all'epoca. Quindi falla andare. Facciamo andare Asia, dai. resti dei mercanti. Rassudano fiori, tesori in mani portano le spine. Si affacciano alle rive, le colorate pene, fragranti di garofano e di pepe. Marche d'Orma, a stanze spese in aria, l'immensa millenaria sua cultura. La natura. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Per la gioia di Andrea, tutta la canzone l'abbiamo fatto ascoltare. Beh, ma hai sentito che pezzo? 7 minuti e 44. Una, hai avuto una forza per cantare un pezzo come Asia, un pezzo molto difficile. Dai. Difficile già all'inizio, già come l'ha scritto Guccini. Difficile nella versione di Augusto e mica male la tua versione. Veramente potente. Non è facile, però la passione... Aiuta. Mi diceva giustamente Andrea che poi c'è stato un momento in cui sei alzato proprio vocalmente. Beh, quando fa terra una nuova, cioè, a me dà un riempio dentro. Poi è un testo molto importante, molto significativo, che entra immediatamente. Guccini ha scritto delle cose meravigliose. Bene, bene. Dall'isola non trovata, no, visto, allora, visto che Renato non arriva, allora no, devi parlare qualcosa. Avanti, sì. Sì, no, volevo spendere, citiamo il nuovo vocalista, di qualche parola per Cristiano Turato, che a mio avviso, io che ho avuto la fortuna di conoscerlo prima di diventare cantante dei Novali, non di persona ma come gruppo, i Madeleine, lui, sì, il gruppo Madeleine. Esatto. Che io apprezzo molto la musica che fanno, perché è una musica elettronica, era proprio elettro rock, esatto, che sarà il futuro secondo me, quindi sono già improntati in un'ottica molto buona, e poi ha una voce che è possente, potente molto, e ricordiamo che è un vanto di Padova, perché è nostrano. Sì, esatto. Secondo te come mai Andrea Beppe ha voluto quel cantatella? È stata una scelta, hanno fatto una selezione prima. Sì, so che hanno fatto una selezione su 200 persone circa, e hanno scelto lui, penso, per alcune caratteristiche importanti. Primo, perché è uno scrittore, quindi ha qualche centinaio di pezzi lui già, cioè, scrive i pezzi all'attivo. Poi è un po' l'istrumentista, diciamo. Certo. È un'estensione vocale spaventosa che, se ricordi, Danilo Sacco aveva un'estensione, ce l'ha ancora, molto, molto ampia. E quindi ha voluto, secondo me, prendere un po' di qua, un po' di là, e ha ritrovato in Cristiano tutte queste caratteristiche, capito? Che non è un clone degli altri due. No, no. Perché è assolutamente... Ha una propria autonomia. Infatti è un'evoluzione che stanno avendo anche i Nomadi a livello di sonorità. Difatti il disco Terzo Tempo ha dei pezzi come Non Avrai, che noi abbiamo voluto riproporre dentro il nostro disco volutamente, appunto per... Sì, prima era, seconda era, e come hanno detto loro, come il nome del disco, Terzo Tempo. Terzo è giusto tempo, che ci sia un pezzo anche era. Del Terzo Tempo. E secondo me, ho detto, ragazzi, perché non facciamo proprio Non Avrai, che rock pieno, capito? Quindi possiamo fare quello che dimostra lo stato di cambiamento che hanno i Nomadi, insomma. Quindi è venuto a trovarci proprio domenica Cristiano, ha fatto una visita qua a Mortise, è venuto sul una gran sorpresa, Andrea. Come dicevo prima, ha avuto la possibilità di conoscerlo a livello personale. Lui, la moglie e il bambino sono la famiglia che hanno, proprio umili, gentili, non posso dire altro che questo. Abita vicino a casa mia, tra l'altro. Sì. Ah, vedi, non lo sapevo. Sì, sì, siamo vicinissimi. Comunque gli auguriamo so che ha fatto un lavoro in mano anche lui, che hanno fatto 50 pezzi sul disco che uscirà per i 50 anni, e ha avuto un bel lavoro. Quindi da per fare anche lui. Impostarli tutti quanti è una cosa non da poco. Sì, perché il cantante, come dicevamo prima, per prima Mattia, ti ho detto, lui mi arriva perché li sente dentro, anche lui deve sentirli, assimilarli dentro. In pochissimo tempo, perché è poco tempo che il cantante di Nomadi ed esprimerli il suo modo. Chiaro. Il suo modo che non vada in collisione con quello che si aspetta dalla gente, B, quello che hanno sempre trasmesso i Nomadi. Chiaro. E lo sta facendo alla grande, lo sta facendo. Non vedo l'ora di sentire il doppio CD, penso sia. Non so ancora se sia il progetto di 50 anni, praticamente. Esatto, che uscirà, penso, a giugno. Sì, cosa dite? Facciamo ascoltare Io Vagabondo e poi torniamo in studio. E... Cosa dite? No, perché credo che la gente stia aspettando Io Vagabondo. E poi magari possiamo far ascoltare un'altra canzone dal disco. Come vuoi. E poi ci salutiamo ancora con Io Vagabondo. Sì, facciamo così. Allora, Io Vagabondo, che abbiamo già preannunciato un sacco di volte, adesso la sentiamo live. La sentiamo, perché sennò altrimenti veramente scoppia di tutto, sennò. E adesso vi voglio tutti a cantare. Vi vedo tutti quanti lì a casa, mi raccomando, sedetevi sul divano, pronti, perché si canta tutti insieme. Vi voglio sentire anche qui, stando a Blu Radio Veneto, con Agostino, con Maurizio, ma soprattutto con gli Status Symbol. Io un giorno crescerò, il cielo della vita volerò, settembre mi svegliai, vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava in un cortile, io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Deserto mi sembrava la città, ma un bimbo che ne sa, sembra azzurra, non può essere l'età. Poi una notte di settembre me ne andai, non è caldo come il sole del mattino. Chissà dov'era casa mia, quel bambino che giocava in un cortile, io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Mitica, mitica e unica, indescrivibile. L'aspettavo impaziente, ha scritto uno. Che ci immagino sta... siamo fuori mezz'ora. Ma si può fare sempre una replay più avanti, sì, più avanti. Facciamo ancora, vi preoccupate, vi preoccupate. Qua live e live in tutti i sensi. Strumenti ci sono, quindi la musica non deve avere confini. Come abbiamo detto prima, the show must go on. Lo spettacolo deve sempre continuare. L'Augusto l'ha sempre detto, e qualche altro oltre Augusto. Sì, era Freddy. Era Freddy, esatto. Ma alla fine del concerto Augusto diceva è stato bellissimo. Ecco, è stato bellissimo. Voglio ricordare anche questo perché avevo un rapporto con le persone proprio. Lui era contro, mi ricordo sempre dal disco, di gente come noi, del sì. DVD, che diceva, gliel'ho detto agli organizzatori, non voglio le transenne. È vero, perché sì. Voglio avere le persone vicine al palco. Ma lui andava proprio a trovare la gente, scendeva, parlava. Come si faceva? Una volta, le belle abitudini di una c'era volta. Più umiltà, semplicità. Bravo. E più civiltà. Bravo, sai, bravo. Cosa dimmi, sta prendendo? Dimmi. Cosa stiamo perdendo soprattutto? Stiamo perdendo il dialogo fra vero e proprio fra le persone. Stanno perdendo posto i cellulari. Dico una cosa sbagliata? No. Dico, è la mia impressione. Tutti i social network. Esatto. Che per l'amor di Dio, sono un veicolo di informazione enorme. Esatto. Dall'altra parte è anche vero, per esempio, per noi della radio, per contattare i cantanti, Facebook, per esempio, oppure Twitter, oppure rapido. MySpace. È un sistema rapido, però ci stai isolando lungo. Una volta per arrivare a loro dovevi scrivere. È vero. Scrivere una lettera. Quindi, grazie, Succos. Sotto questo punto di vista, però è una cosa che però mia, sì, no? sì no, non c'è forse più il contatto diretto, il dialogo. Esatto. Certo. E tornando al discorso che dicevi prima di quello che diceva Augusto, è perché appunto la civiltà adesso non ci sono più questi come dire, questi rispetti, ma c'è la voglia di andare sul palco, di fare confusione, di strappargli i capelli, di saltargli addosso, e poi la massa di gente si avvicina, quindi è impossibile, per forza di cose devono mettere delle transenne. Prova a immaginarti, per esempio, domani sera che avremo qui Bruce Springsteen, 40.000 persone, cioè... Ecco, vedi, il boss ha la filosofia che aveva Augusto. Boh, spesso e volentieri quando fanno le prove del concerto, è già successo a Napoli, prima, qualche ora prima dell'inizio del concerto, lui è sceso, la gente sentiva, stava aspettando, è sceso e ha cominciato a suonare l'acustica in mezzo alla gente. Non era il concerto, era lui scendeva e parlava con la gente. È un altro modo di vivere. Augusto aveva quella sensazione, non lo so, quella emozione, quel modo di concepire. Sono una star, sì, ma sono una star perché? Per quella gente là. Grazie a quella gente là sono diventato una star. Certo, perché loro mi comprano i dischi. Oltre grazie a quello, alla gente. Adesso mi è stato sempre grazie alla gente, grazie al pubblico, grazie ai fan, che uno diventa una star. Certa gente si dimentica questo, certe nostre star si dimenticano di questo. E poi rifiutano gli autografi. Ecco, quello è un'altra cosa negativa, rifiutare gli autografi. Vabbè. Mi ricordo vabbè. Sempre l'episodio di James Taylor a Padova, 2 anni fa. C'è stato un bellissimo concerto. Alla fine lui non se n'è andato, ha aspettato che tutti quanti arrivassero col loro autografo da firmare. Li ha aspettati tutti, quindi è stato un'ora con il pubblico. Questa è una vera star. È una dimostrazione di grande umanità. E certo. Beh, insomma, siccome c'è tempo, Maurizio, vedo che purtroppo penso che ci siano successi. Se Renato qualcosa non... avrà avuto problemi. Io volevo fare quella domanda che facciamo. Ah, sì, adesso la facciamo. Siamo in 5. Facciamo 3. Bello, bello, bella domanda questa. State attenti, ragazzi, anche alla new entry. Da chi cominciamo? Cominciamo dalla new entry. Sì, cominciamo dalla new entry, dai. Da Michele. Da Michele. Allora, Michele, allora, se tu è la famosa domanda che facciamo a tutti, quindi anche voi siete vittime di questa domanda. Allora, anche noi copiamo, ovviamente, perché è una cosa che sì, una cosa che ha fatto il Mucchio Selvaggio tanti anni fa. Devi bazzare, Michele. Esatto. Pensando, allora, se tu andassi in un'isola deserta, che dischi ti porteresti? Tre. Dischi interi, no? Dischi. È una domanda difficile per appunto per quello. Non tanto per dover scegliere quale disco portarmi, ma più che altro perché i miei gusti musicali non si basano magari sullo sempre lo stesso gruppo, gli album non che importa, ha fatto. Non importa, vai, spara, ti preoccupare te. È una bella domanda, ci posso pensare un attimo. Intanto gli altri ci stanno pensando. C'è qualcuno che è già pronto? Io sì. Mattia, sì. Vai Mattia. Nomadi. No. Io mi porto via solo i nomadi. No, non è valida questa. Io porterei Fields of Gold di Sting. Cita Andrea. Fields of Gold di Sting, appunto. Quindi un disco di Sting, poi? Poi per stare nel mondo nomadi, gente come noi. Di nomadi e poi? Esatto. Ma non facciamo ascoltare, non ci portiamo i nomadi, dai. No, beh, un minimo bisogna, sennò se ce l'hai dentro come fai a non portarli? Beh, un pezzo, un disco di nomadi e poi? E poi, il nome del disco non me lo ricordo, quello di Elton John, dove c'è la canzone che è dedicata a Diana, La Candela nel Vento. Ah, sì. Candle in the Wind. Che forse è un singolo addirittura. Per lui. Sì. Candle in the Wind è un sindaco. È un singolo. Però è un poi sindaco. L'ha riproposto anche sì, nell'album un dopo, singolo da circa 25 milioni di copie. Perché era leggermente cambiato nel testo. Esatto, era dedicato a Marilyn Monroe all'inizio. No. Ah sì, poi l'ha cambiato nel testo per dedicarla a Daddy D, insomma. Quindi poi dopo Elton John abbiamo detto Sting e i Nomadi proprio. E i Nomadi sì, esatto. Proprio. Tocca a te, ma... Beh, se posso... A New Entry, dai. L'intera discografia, che ne so, degli Alter Bridge, per esempio. Se li conoscete. No, io no. Vabbè, è un gruppo americano. Alter Bridge, Maurizio, tu li conosci? No, non li conosco. Assolutamente. Beccati. Augusti un po' moderni, quindi. No, ma è giusto. Giusto. Anzi, se ci parli un po' di loro. Beh, è un gruppo che fa alternative metal. Mm. Insomma, abbastanza moderno. Magari Renato li conosce. È un sentiero un po' particolare per me, l'alternative metal. Poi. No, questo è un titolo. Ci sono lui, altri due la discografia, così è chiuso la discografia. Tre giusti. Dopo la seconda discografia che vorresti portare? Non ne ho proprio idea. Non so, un gruppo americano, una discografia americana, un gruppo americano, inglese, italiano. Esclusi Nomadi che abbiamo già citato. Esclusi Nomadi. Non è valido copiare. Che ne so, qualche disco dei Motley Crue. Va bene, può andare, sì. Benissimo. Ok. Sei un rockettaro, ti hai convinto praticamente. Sì. Che ne so, i Beatles. I Beatles, no? Perfetto. Magari White Album. Uno qualsiasi. Il nostro batterista che finalmente parla. Perché... molto bene, benissimo. Dimmi, caro. Allora, al terzo posto mi ha rubato l'idea Michele, sì. Il Pepper dei Beatles. Ah. Sgt. Pepper, sì. Al secondo posto, Ok Computer dei Radiohead. E al primo posto, ovviamente, The Wall dei Pink Floyd. Ah, vai a vedere Roger Waters? Ovviamente, ovviamente sì. Ovviamente sì. Sono andato a vederlo 2 anni fa a Milano. Com'è stato? Due anni fa. Bellissimo, stupendo. E quest'anno sarà ancora più bello perché a Milano era il Forum di Assago. E quest'anno sarà lo stadio. Lo stadio Ilgane a Padova, sì. Di dimensioni ancora più grandi. Quindi maggiori, sarà uno spettacolo. Caro nostro Filippo, adesso ti avvicini e, e decidi i tuoi dischi. Da buon chitarrista io vado sui classici. Vai, vai. Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Lui è citato The Wall. Io mi perché porto The Dark Side? Perché lì è un insieme di tutto. Cioè, secondo me è un qualcosa che, pur essendo stato fatto... Aspetta. 74. 74, quindi sono 30 anni fa. È di una cosa, cioè, è tutto. Beh, è ancora tutto. In classifica in America, quindi già quello è una cosa importante. Esatto. Al di là della bellezza, al di là della dimensione del disco. Sì, al di là del chitarrismo, al di là di vari strumenti. Anche se The Wall è scritto The Wall, si potrebbe leggere Roger Waters, perché è tutto suo. Sì, certo, è vero. Poi mi porterei, non faccio grandi distinzioni anche perché adesso non ricordo precisamente, però la discografia di Stevie Wonder. Ecco, come mai ama particolarmente Stevie Wonder Agostino? Lo ama particolarmente Stevie perché, Wonder? Perché anche quello lì è un maestro nel modo di formare le cose. È un maestro nel modo di comporre, modo di esporre un concetto, nel modo di parlare di diciamo anche del solito amore, no? Però la sua maniera è a parte che comunque la musica black. La cultura, esatto, la cultura dalla quale arriva, insomma, è lui. Si sta segnando i nomi, Mattia, non è mica valido, sta segnando i nomi. Guarda che sta partendo con un progetto musicale. Ah, bene, dimmi Filippo. Sono nomadi, lui sono nomadi. Noi stiamo partendo. Che progetto musicale hai, Filippo? Sì, ho con altri 9 ragazzi, perché stiamo mettendo sulla formazione dello Stevie Wonder. Eccolo qua. 2009 nei concerti di Londra che ha fatto, quindi con tutta la formazione completo, e noi stiamo riproponendo questa cosa. Non siamo ancora prontissimi, però credo nel giro di un mese e mezzo, due saremo. È un'idea per portarli qua. Ci chiamiamo Wonderful. Wonderful. Un'idea per portarli qua. Sì, potrebbe essere una grandissima idea. Siamo una serata dedicata a Stevie Wonder. Quindi sarei io molto soddisfatto. Non voglio dire niente, Maurizio, ma ti porto a conoscenza che The Sound Key of Life forse è uno dei più bei dischi mai fatto. Ah, sono perfettamente d'accordo con te. Sì. Sei d'accordo con me? Sì, sono d'accordo. Ma penso che qualsiasi cosa che fa Stevie Wonder sia magica, al di là di tutto, davvero. E poi mi porterei un qualsiasi Deep Purple, Zeppelin. Vedi, la tua anima rocchettara esiste. Viene fuori. I tuoi giri all'elettrica vengono fuori, che sei un rocchettaro. Io sono molto elettrico. Sei molto elettrico. Ti hanno un po' frenato qui, ragazzi, oppure no? No, assolutamente. No. Anzi, al contrario. Nel live c'è da divertirsi. Che... posso dire una cosa? Dimmi, Mattia. Fare una lancia a favore di Filippo. Proprio la passione del rock lo si vede quando fa degli assoli di chitarra, cioè lo mette proprio anche nell'espressività. Cioè, tu lo guardi in faccia, è una cosa. Soffre. No, una cosa. Ma soffre musicalmente. È una cosa dire bellissima. Questo. Una cosa bellissima. Fammi l'attacco di Smoke at the Water. Espressivo aspetta, a mille. Aspetta, che me lo fa. Con l'acustica. Ecco, insomma, adesso si può far di meglio. Immortale, un pezzo immortale. L'hanno fatto tutti, cioè hanno tentato di farlo tutti, quello è diverso. Beh, è vero. Comunque questi sono, ecco, Mattia ha ribadito solo nomadi, ma ci sarà un assolutamente sì. Ci sarà un disco dei nomadi di più e un disco dei nomadi meno. Ma il primo disco che io ho ascoltato dei nomadi è McAfee La Vita, che è una raccolta live. È una raccolta live stupenda, bellissima, in cui citavamo prima e abbiamo anche fatto ascoltare suoni. Ma c'è una i vocalizzi di Augusto è una cosa. C'è una particolarità in quella copertina, lo sai, no? Sì, è un matrimonio. È un matrimonio, e sono amici dei nomadi quelli là. Penso che siano anche un tributo nomadi. No, è la moglie del cantante del si chiama il gruppo Giù in Emilia. Potremmo sbagliare, perché siamo in tanti, siamo in 280 cover lato band. Lato B cover band. Ecco, sì, esattamente, sono sposati, hanno invitato i nomadi e hanno immortalato quella copertina del disco. La e ce l'hai di là in disco in vinile. Esatto, l'ho ce l'ha in vinile. Nella nostra discografia. Secondo me è il più bello in assoluto. Ah, ti piace molto il live, allora, praticamente? Mi piace ancora Augusto. Beh, non si può non... Chi non beh, può? Lo sentiamo in sottofondo. Un pugno di sabbia. Un pugno di sabbia, un altro disco da disco per l'estate, un altro singolo. Sempre disegnato da Augusto, ti ricordi? Sì. Io devo fare un appunto al batterista, che c'è qualcuno che ti stima, mi ha scritto. Batterista, ti stimo perché parlavi dei Pink Floyd e quant'altro. E chi ama i Pink Floyd, visto che seguite anche insomma la loro produzione, vi voglio ricordare un evento che c'è sabato 29 giugno a Palazzo Mocenigo a San Drigo, perché c'è una giornata interamente dedicata ai Pink Floyd, alla loro musica, al loro pensiero, alle loro immagini e a quelle immagini scaturite dalla mente geniale di Roger Waters e compagni. È una giornata indimenticabile. All'interno di questa giornata c'è il concerto di un gruppo che è molto amico di Blu Radio Vento, sono già venuti due volte qui, vero Maurizio? Sì, certo, certo. Erano molti più di voi lì in studio a suonare dal vivo, sono i Witmetrics. Saranno loro a fare il concerto, è una band strepitosa, straordinaria, fanno i Pink Floyd in una maniera unica, poi c'hanno un palco gigantesco, sono in 11 musicisti, tra compreso le coriste, quindi... E poi c'hanno il maiale, c'hanno il laser, le fiamme, hanno di tutto e di più. Quindi se avete voglia di andarli a vedere, vi ricordo il sabato 29 giugno a Palazzo Mocenigo in via Chiesa Lupia a San Drigo in provincia di Vicenza. È una giornata straordinaria. Poi all'interno, nei locali di questo cinquecentesco Palazzo Mocenigo, ci sarà allestito anche una mostra dei cimeli dei Pink Floyd. Insomma, è proprio una giornata dedicata a questa band. Quindi... C'è un amico dentro lì, si chiama Claudio Tiso, un amico in comune, no? È un amico in comune, sì, esatto. Claudio è un mio carissimo amico, sì. Abbiamo attraversato un anno con tributo dai Estrezzi insieme con doppio tastiere. Sì, penso. Agostino, possiamo... forte Claudio. Sì, molto. Poi noi dobbiamo continuamente dire grazie a Claudio, perché è sempre lui che ci aiuta con sì, la tastiera. Assolutamente, assolutamente. Possiamo salutare un momento anche il nostro direttore artistico Alberto, che ha visto la band, mi pare domenica, è stato molto soddisfatto, ma ha detto molto bravi, sono molto bravi sti ragazzi. Dobbiamo dire queste robe. È venuto a Mortise. Esattamente, a Mortise, abita vicino a casa sua, ed è stato molto soddisfatto della vostra esibizione. Bella festa, bella gente, bella accoglienza. Peccato che verso le 11 è calata. Sì. Un peccato, un velo di freddo. È una cosa pazzesca. Però l'atmosfera era bella. Bella calda. Due gocce di pioggia ci vogliono con questa temperatura sempre così calda, no? Siamo sempre caldi. La terra secca poi. E noi siamo ancora caldi, non abbiamo ancora finito. No, allora fai sentire una vraga che ripresentiamo, sì, quella del disco, così parliamo un attimo del terzo tempo. Benissimo. Obbedisco. Nessuno vuol vedere mai. E Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Sì, ci sono state, mentre il pezzo andava, ci sono state delle trattative. Sì, ho visto. Delle trattative democratiche proprio. Io ho tentato praticamente dalle 7:35 che siamo qua e ho tentato e sono arrivato sulle 23:11 e ho tentato e sono riuscito. Perché quando sento solo la prima frase, ho visto, mi devo alzare in piedi perché solo Dio è morto. Dio è morto ha avuto un impatto incredibile, un testo ancora attualissimo. 1967, censurato dalla RAI, trasmesso alla grande dalla Radio Vaticana. Un pezzo meraviglioso che Augusto e i Nomadi fecero in maniera sublime. Perché Dio è morto così ancora attuale, cari ragazzi, cari nomadi, o cari status symbol? Perché ha un testo, anche lì, le parole, perché poi la canzone è un atto di fede. È un atto di fede, esatto. Contro il perbenismo, contro tutto, la realtà, la verità. Bellissimo. Non hai fatto le considerazioni sul pezzo precedente, Maurizio. Sì, adesso no, lo facciamo fare. Sì, lo facciamo fare. Era preso da trattative che stavamo facendo. Quando mi avete detto sì, facciamo questo pezzo, fa parte della mia generazione, io ho una certa età. E l'ho sentito milioni di volte, nel senso positivo, tante volte, e non mi stanca mai, perché è un testo valido, enormemente valido, tutt'oggi, 2013. Allora, parliamo un momento del pezzo che abbiamo sentito. Sì, non avrai, l'abbiamo riproposto come ti dicevo prima perché... E di Carletti, solo di Beppe Carletti questo pezzo. Ma no, ce ne sono tanti, ho visto anche la figlia, l'Elena Carletti, che ha messo il testo, mi sembra parte del testo. Beh, se guardi sugli autori ce ne sono 5 o 6. Beh, comunque dopo quelle cose lì sono dettagli che le sanno loro. Certo, insomma, certo. Niente, è un pezzo, abbiamo voluto metterlo dentro appunto perché, come dicevo prima, è un pezzo rock e riprende... Si tiene la chitarra di Filippo, esatto. Chiaramente. Il terzo tempo... Il terzo tempo di Nomadi. Il terzo tempo. È giusto di aver fatto dei pezzi di Augusto, è giusto aver fatto dei pezzi per ricordare Danilo. Di Danilo. È giusto ricordare un pezzo, uno o più pezzi, abbiamo visto uno dell'ultimo disco che secondo noi valeva la pena fare, poi anche perché poi abbiamo Cristiano Turato, esatto, certo. Abbiamo messo sotto... Torchio Mattia per fare questo pezzo perché è un'escursione locale non da poco. Cristiano Turato dà del filo da torcere. No, Mattia, ha un'estensione vocale. Hai avuto difficoltà a fare un pezzo simile, Mattia? Sì. Non posso dir di no. Non è stato facile. L'abbiamo provato più di qualche volta. E quante prove avete fatto per fare la scaletta, al di là dei pezzi inediti vostri, la scaletta di questo disco? Ma sai, ultimamente... Che difficoltà c'è stato? Ci sono stati pezzi più difficili, meno difficili, Mattia? Ma sicuramente un pezzo difficile, parlo... Personalmente. Personalmente, a livello vocale, è proprio Non è avrai. Proprio questo. Che secondo me è proprio il pezzo più difficile. Ma hai tenuto benissimo. Sì. Diciamo, cioè, l'abbiamo provato, riprovato finché... Finché è andato ok. Finché è andato, abbiamo dato l'ok. Fatto, devo essere sincero. Dimmi. È vera sta cosa qua. Abbiamo fatto 12... Un po' perplesso, Filippo. 12 o... No, 12. Non sei perplesso. Le ultime registrazioni. Mettiti davanti al microfono. 12 o 13 ore di registrazione. L'ultima botta di registrazione. L'ultima botta è stata... 12 o 13 ore di registrazione. Non mi ricordo più, 12 ore... No, abbiamo fatto 14 ore di studio l'ultimo giorno perché lui, essendo il suo lavoro, certo, va in trasferta parecchio, quindi dobbiamo incastrare i tempi di tutti noi. Esattamente, no? Esattamente. L'ultima botta di registrazione, che le ha passate, diciamo, bene o male, quasi tutte, ha cantato quasi 11 ore. Quasi 11 ore hai cantato? Sì. Infatti là non so come abbia fatto ad arrivare, noi siamo di studio con lui 14 ore. Ti hanno portato poi con le bombole d'ossigeno? No, guarda, mi sono fermato a mangiare una piadina. Che... Ecco. Vedi caso. Piadina, Coca-Cola. Lui si ricarica così. Subito, mi è passato ogni dolore, ogni pensiero, anche la stanchezza. Allora, stiamo improvvisando alla grande questa sera perché non era prevista appunto questa... Stiamo praticamente... Mi spiace per Renato, non si sa. Tremendo alla grande, soprattutto sul batterista, che non è convinto il batterista. Lo so, perché il batterista è un perfezionista. È così, molto vero? Professionista. È un professionista. però sai, quando uno decide di fare un pezzo simile, la perfezione di là, Maurizio, dimmi, comunque dimmi. Considera, adesso la gente da casa non lo vede se non pubblica qualche foto di là. Dopo pubblicheremo tutto. Però, Claudio è bellissimo. Cioè, vorrei vedere no, Claudio è bellissimo. Occhi azzurri, capelli biondi, 1,90. No, vorrei che vedesse come sta suonando alla batteria un terzo. Sì, questo quindi, è vero. Per quello è molto meticoloso, perché dice, cavolo, qua rischiamo che viene fuori qualcosa. Di perdere. E che si è portato qualcosa, anche c'è chi si porta solo un KO a volte. Quindi, capita. Allora, Blu Radio Veneto sempre con voi. Qui sono le 23:16. Siamo assolutamente in diretta. Imprevista questa cosa, ma comunque siamo qui. Speriamo sia sonito a Renato. Ed è un piacere. Posso dire una cosa? Respiro proprio un'aria di casa. Appena iniziato, avevo un po' di paura. Il tremore, di tensione. Una cosa inimmaginabile. Adesso mi sento quasi a casa. Ma secondo me, Mattia, è giusto che ci sia un po' di tensione. Perché se non c'è tensione, non c'è anima, non c'è feeling, non c'è volontà. Esatto. È così. Dicevo, Blu Radio Veneto, questa è la vostra emittente preferita in questo preciso istante, perché la state ascoltando. Questa è la voce di Agostino Spolaore, che assieme a Maurizio Canzavara vi sta proponendo il nuovissimo disco degli Status Symbol, cioè Liberi di Essere. Ma questo non ci ha tolto la voglia di ripercorrere le strade dei Nomadi con tante canzoni famosissime. Abbiamo ascoltato Io Vagabondo, la riascolteremo magari quando ci saluteremo. Abbiamo ascoltato anche Stagioni, che io adoro. Abbiamo ascoltato Auschwitz. Adesso ci ascoltiamo un'altra perla della produzione di Augusto, che si intitola Dio è morto. Prego. Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo. Già tutte le notti che dal vino sono bagnate, dentro le stanze da pastiglie trasformate, lungo le nuvole di fumo nel mondo fatto di città. Essere contro ad ingoiare la nostra stanca civiltà. È un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto prese a rate, Dio è morto, miti dell'estate, Dio è morto. Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso maschera con la fede, nei miti eterni della patria e dell'eroe, perché venuto mai il momento di negare. Carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta a fuoco, i contesini di chi sta sempre con la ragione mai col porto. Un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto con i miti della razza, Dio è morto con gli odi di partito, Dio è morto. Ma penso questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo, una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore per 3 giorni e poi risorge, ciò che noi crediamo Dio è risorto, ciò che noi vogliamo Dio è risorto, il mondo che faremo Dio è risorto. Io risorto, io risorto. L'hanno provata 5 minuti fa, non l'avevo proprio preparato. Quella è la bellezza dei live in radio, provare 5 minuti prima, anzi, non provare proprio. È bello, cioè un pezzo simile non morirà mai musicalmente, perché ha una carica incredibile. Bellissima. Altro da dire, commosso che Mattia. Io ringrazio Mattia perché è stato lui assieme a me che abbiamo forzato gli altri. È stato sì. Quello un po' che aveva la resa più forte era Claudio. Ma il batterista si è comportato benissimo, sei stato perfetto. Ha battuto, ha rotto. Ha rotto. Adesso potrebbe fare qualsiasi cosa. Lo so, caro mio, quando venite qua non c'è niente da fare, non ci sono regole, non ci sono scalette, è libero, è un happening, questo è un happening vero e proprio. Cosa dici, Eri? Cosa dici? Sono pienamente d'accordo con happening. Te. Stefano dice una di quelle canzoni che si associano ad un periodo storico, un po' come Blowing the Wind o Imagine. È vero, hai ragione. Agostino, puoi un attimo elencare un po' i brani, i pezzi che sono nel disco, così la gente a casa. Certo, certo, certo. Aspetta che mi stavi dicendo una cosa qui, Mattia. Tanto, se volete dire qualcosa voi. Sì, adesso stiamo sentendo in sottofondo pezzo di Nomadi, sì, la scaletta del disco, sì, innanzitutto ci sono i due pezzi inediti che abbiamo sentito, poi c'è Asia, c'è un altro pezzo storico, Ala Bianca, che è la traccia numero 11. La potremmo sentire un secondo, Ala Bianca, cosa dici? D'accordo? Un bel tiro di piano, di chitarra. Puoi sentire quella, perché mi avevano suggerito Sangue al Cuore, che è la canzone che apre il disco. Sì, fai un pezzettino, dai. Cosa faccio sentire? Sangue al Cuore, allora, per prima? Sì, fai un mix, dai. Sentiamo Ala Bianca, poi Sangue al Cuore, dai. Prima Ala Bianca, pezzo di Status Symbol. Versione loro, chiaramente. Yeah. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Sì, ricordiamo due cose. Innanzitutto il basso strepitoso di Luca Belloni, lo slap. Sì, soprattutto lo slap anche il passaggio dopo. Ha fatto un lavoro incredibile. E ricordiamo che, giustamente, io parlavo col batterista da lontano. Il pezzo originale era 60 Years On, dal primo album di Elton John, prodotto da Paul Buckmaster. Augusto ne fece due versioni, una versione tranquilla, ma ad atmosfera, e una versione scatenata, come ha fatto Mattia, un live dell'84, mi pare. Versione scatenata in tutti i sensi, e tu hai ripreso proprio quella versione scatenata di Augusto, più essere dato al massimo. Esatto, mi sono ispirato a quella versione lì e ho cercato di farla mia, insomma. Esattamente, come esatto. Proprio come un pezzo da trasporto. Poi le chitarre distorte di Filippo hanno dato proprio, è un pezzo rock, c'è poco da fare. Strepitoso, direi. Come sempre. Quanto ti diverti a fare tutti questi assoli? Tantissimo. Immagino. Cioè, è il top. Non vedi l'ora che succeda. Questo è un pezzo che fa muovere tutti, Andrea, sicuramente, quando lo fate. Sì, sicuro. Stavo anche qua a spingere. Io posso dire per il piano, perché bisogna battere parecchio. Ma spinge tutti gli strumenti, sono spinti, sì, dalla voce di Mattia. Batteria, trascinati. Anche il batterista, sì. Hai parlato poco, perché sei lontano. Sei raffreddato. Perché Michele ha parlato tanto, secondo te? Però ha dato le espressioni, secondo me. Ha dato le espressioni, vero Michele? Sì, almeno quello, dai. Michele, lo stiamo forgiando, dai. Esatto. Ma comunque devo fare i complimenti a Michele, perché si è trovato praticamente in una situazione di essere sparato dentro con 3-4 date al mese, capito, con dei palchi importanti, con ospiti importanti. E poverino, ha assimilato tutto in pochi mesi. Grazie Andrea, troppo buono. Come l'impegno... sei riuscito, Michele, in pochi mesi a assimilare un repertorio abbastanza vasto e difficile? Beh, mi sono messo sotto, diciamo che sono stato abbastanza motivato. Insomma, vengo da una realtà musicale che era molto più ridotta. E quindi, insomma. Ma come hai trovato questa band tu? Grazie a Luca Belloni. Ah, bassista, il vecchio bassista. Un amico di famiglia, lo saluto, ci sono, che ha detto che... Vai tu? Sì, praticamente. Uno scambio. E direi che ha preso il suo posto egregiamente. Ha preso il testimone e sta correndo. Grazie. Sta correndo più di noi, perché noi, bene o male... riprendiamo sempre i pezzi a ciclico, no? Certo. Ogni 8 mesi riprendiamo sempre i pezzi per rispolverarli sempre. Lui invece deve fare un lavoro immane, perché anche quando sei sui palchi la gente ti chiede come jukebox i pezzi, tu hai una scaletta, però dopo vedi come va la serata e... abbiamo fatto anche noi stasera. Poco da fare. Agostino, dimmi, tu hai Facebook? Io ho acceso il telefono poc'anzi mentre ascoltavamo il pezzo. Ti dico, volevo fare un saluto a Don Alberto, che mi sta scrivendo, che mi sta ascoltando, siamo bravissimi. Mi ha detto, a lui va un pensiero molto importante, perché è un Don estremamente simpatico, gentile, vicino alle persone, e parlando sempre di solidarietà, si approccia molto bene con i ragazzi. È il parroco di una parroco. Sì, del mio paese natale, che è Pegolotto di Cona. Saluto tutto Pegolotto, anche Cona. che però è stato mandato, come sai succede ultimamente, che i parroci ce ne sono sempre meno, perché ovviamente è stato spostato su nei colli vicino a Asiago, cioè sui colli in montagna, diciamo, insomma, ecco. Era un 6 mesi che non lo vedo circa, però ci segue sempre su Facebook, sul sito, mi scrive sempre su Facebook alle 2 di notte anche. Vi seguo, vi ascolto, siete bravi, andate avanti così. E mi ha mandato dei saluti adesso, come tante altre gente, che però non posso elencare perché ho acceso il telefono, è arrivata una strage di messaggi. Beh, puoi salutarli se vuoi. Sì, no, comunque mi piace vedere che appunto anche gente che da tempo che non sento, che non chiamo, perché ovviamente gli impegni sono molti per noi, per loro, per tutti, insomma, adesso ci stanno sentendo. C'è un motivo, Andrea, è il potere della radio. La radio è la radio, oltre alla comunicazione. E anche della loro bravura. Certo, anche della vostra bravura, però la radio come veicolo è enorme, secondo me. No, mi rilascio il discorso di Salvatore prima, cioè, dobbiamo crederci, mandare avanti il discorso, c'è gente che ci mette ancora il cuore, quindi sia noi come musicisti, diciamo, che d'altra parte loro che ascoltano. Che apprezzano tutto quello che stiamo facendo, insomma. Certamente. Sentiamo l'altro pezzo che volevi dall'album, Andrea. Sì, ci tiene particolarmente Mattia, difatti ha battezzato il primo pezzo del disco. Ecco, esattamente. Si chiama Sangue al Cuore. Ricordiamo comunque le 12 canzoni, poi magari parli sì, di... La scaletta è qua, Mattia. Adesso... Allora, le canzoni che fanno parte di questo disco, cioè Liberi di Essere, il nuovissimo, sottolineo, il nuovissimo disco degli Status Symbol che deve uscire proprio in questi giorni. Allora, sono 12 canzoni. La prima è Sangue al Cuore, poi c'è Il Vento del Nord, Con Me o Contro di Me, Liberi di Essere, C'è un Re, Asia, Non Avrai, Suoni, Chiedilo al mio cuore, Senza Patria, Ala Bianca e Trovare Dio. Queste sono le 12 canzoni che troverete all'interno del disco se lo acquistate. E a proposito, non abbiamo ancora detto, o Mattia o chi per esso, insomma, che vuole rispondere a questo, se qualcuno volesse acquistare il disco, quando l'avrete fisicamente, ovviamente, che sarà questione di qualche giorno, come potrebbe fare? Si trova su iTunes, si trova, deve contattare voi, si trova nei vari negozi di dischi, insomma. Sì, allora no, i negozi di dischi per il momento non ci siamo ancora arrivati perché abbiamo un budget un po' ristretto, come uh-huh. Puoi capire. E lo trovate, lo trovano per le prime qualche centinaia che abbiamo stampato, che stanno stampando in discografia, insomma, in studio lì, e lo trovano dal 7 di giugno, dalla serata che faremo come debutto, e poi potranno contattarci via Facebook o via sito internet o via mail, insomma. Quindi i vostri concerti, insomma. Sì, per il momento non vogliamo bassi, il disco è registrato tutto quanto, anche gli inediti sono registrati in SIAE e tutto, quindi è pronto praticamente. Sì, in regola con tutto, quindi è pronto, però non abbiamo ancora, siamo ancora un po', fra virgolette, inesperti sul marketing delle cose. Siamo vicini alla gente e lo consegniamo a mano, ecco. Certo, che magari a volte è la cosa anche più bella, più genuina, più semplice. Sì, perché secondo me è giusto anche spiegare alle persone, perché certo. All'interno abbiamo trascritto i due testi dei due inediti, quindi è anche bello spiegare alle persone quello che abbiamo posto, insomma. O magari andrà anche su Facebook. Come su Facebook? Posso contarci su Facebook? Su Facebook ci trovano sotto il gruppo Nomadi Fans Club, Status Symbol, quindi, o Status Symbol, Nomadi Fans Club, se non mi ricordo. Comunque ci trovano lì. Posso fare richiesta lì tramite il sito, o telefono, o via mail. Insomma, in qualche maniera ci siamo sempre. Sì, io rispondo sempre al telefono. A proposito di Fan Club, vogliamo salutare il Fans Club Nomadi il Fiume di Curtarola. Paolo, certo, c'è il Fans Club qua molto vicino a noi. Che e ho avuto la fortuna di conoscere prima che venisse ufficializzato qualche anno fa, ha compiuto 3 anni quest'anno, esatto. quindi abbiamo la fortuna di avere delle persone vicine qui, molto amanti di Nomadi, simpatiche, che stanno benissimo con noi, insomma. Anche domenica ci hanno fatto visita, c'è anche il presidente del fan club. Ciao Paolino, che sarà in ascolto senz'altro, immagino. Penso di sì. Sarà a letto a quest'ora. Mattia, tu volevi dire qualcosa sulla canzone? Sì. Su Sangue al Cuore. Sì, apri il disco. Tornavamo a casa da Genova e mi fa: ma ascolta, Mattia, ma com'è che le mettiamo queste canzoni? Io ho detto Sangue al Cuore, prima, sei sicuro? Allora abbiamo riascoltato le tracce, le abbiamo riascoltate e cadeva bene così. E allora buon Sangue al Cuore a tutti. Grazie. Girano i pianeti, girano anche sotto i nostri piedi. Scaviamo fino in fondo al nostro cuore, per trovare solo altro rumore. Restiamo in piedi adesso. Domani sveglia presto, andiamo a spasso, tutti insieme nello spazio. Ma prima di aver detto preghierina, per padre onnipotente e l'oro nero. Restiamo in piedi adesso. Io voglio solo che arrivi il sangue al cuore, voglio un sole che arda in mezzo al cielo. Io mi voglio scaldare, voglio fare l'amore, voglio stare con te, e il mondo sa dove va. Sicuro, clonare un sogno ed un futuro, suda bravi adesso. magia, facciamoci cambiare la batteria e a curare l'arte e la poesia. Ben ci pensa lo psicanalista e sia. Io poi lo so che arrivi il sangue e il cuore, voglio un sole che arda in mezzo al cielo. Io mi voglio scaldare, voglio fare l'amore, voglio stare con te e il mondo sa dove va. Io mi voglio scaldare, voglio fare l'amore, voglio stare con te e il mondo sa dove va. Santo qui ci tiene in piedi, ma dall'orlo della mia follia anch'io avrei righe d'aria. Io voglio solo che arrivi il sangue e il cuore, voglio un sole che arda in me. Blue Time Live. Blue Time. Live. Non ci facciamo mancare niente. No, abbiamo sconvolto tutti i dettami. Abbiamo sconvolto tutti i dettami. Siamo e giustamente Andrea dice: è un concerto. Ma certo che è un concerto. È un happening, ripeto, un happening totale. Vi garantisco che è assolutamente tutto improvvisato. Esattamente. Però è bello, è positivo. Adesso abbiamo deciso, cioè io ho deciso più. Prima fai le considerazioni sul pezzo. Maurizio ha deciso. Ah, ecco, con l'eco, ho sentito? Con il reverbero. Beh, le considerazioni già fatte Mattia su questo pezzo, quindi... Io mi concentro sul pezzo dopo, quello vabbè, che facciamo abbiamo adesso. Riproposto uno strumento, si è fatto caso in questo pezzo perché sappiamo che sta venendo avanti la ristruttura del nuovo strumento, il Moog. Ah sì, è vero, il Moog l'anno prossimo è prevista l'uscita dalla casa americana della tecnologia. Quanti nuova anni ha il Moog? Oh, adesso mi dici. Penso fine anni 50 è cominciato, i primi anni 60. Sì. A proposito, ricordiamo Ray Manzarek che se n'è andato qualche giorno fa, Light My Fire. Più Moog di quel suono dell'organo. Se n'è andato anche un grande artista italiano, però. Esatto, sì, se n'è andato purtroppo. Little Tony se n'è andato. Chiaramente. Riderà. Anche formato. Purtroppo, quando arrivano a una certa età. Ma si è fatto caso negli ultimi 8-10 mesi. Stanno morendo. Sono andati un sacco. Big veramente. Della musica. Veramente Little Tony era un personaggio che amava il rock and roll. Assolutamente rock and roll. Era l'Elvis all'italiano. Sì. tra lui e Bobby Solo si mettevano, qualche volta si mettevano d'accordo, qualche volta giocavano su questo. Adesso facciamo un pezzo meraviglioso da gente come noi. Perché meraviglioso? Innanzitutto perché il grande ritorno al successo dei Nomadi, e poi un pezzo antimilitarista contro le dittature, a favore degli oppressi. C'è un re cantato 1991 esattamente 1991 cantato in modo, come lo cantava Augusto, Andrea? Era un, secondo me non è neanche un cantare, era un parlare, era un gridando, vociare. Esatto. Mi ricorderò sempre, guarda, alla fine lui in live lo faceva, anzi proprio su, sempre su quel DVD Gente Come Noi, giubbotto scamosciato con le frange, scarpette marroni scamosciate, alla fine batteva i piedi e c'era il palco con le asse di legno che facevano, si muoveva la polvere per riprendere il brano, e la gente gli andava dietro, era proprio una carica. Sì, una canzone popolare, assolutamente. Esatto. Bellissima, è bellissima anche l'interpretazione loro. Adesso la sentiamo, ne vale assolutamente la pena. Sono le 23:41, quasi 42. E qua si continua. E si continua sempre. Urla fuoco tutto il giorno, volano a voltoi nel cielo blu attorno, avanza il battaglione, brilla il carro e lo cuore, e cadono sull'erba mille bravi cittadini. C'è un re che non vuol vedere, c'è un re che non vuol sapere. Stay! Urlano tamburi, danzano zampone, siamo nella polvere, siamo il sudore, e cadono sull'erba i miei bravi contadini. C'è un re, che non vuol venire, c'è un re, che non vuol sapere. Stai! Dalle rose si sveglia nemmeno quando cadi silenziose, unite nel dolore a giovani storie, si un anello con inciso sopra un nome. C'è un re, che non scende dal trono, c'è un re che non fa nessun modo. Scende dal trono, c'è un re che non fa l'ultimo dono. Hey! A questo punto era bellissimo quando entrava Augusto. Hey, hey, hey, hey, vai Claudio, seguimi. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Bellissimo. benissimo. Credo che avete tolto 20 anni, 30 anni a Maurizio stasera. Posso dire una cosa? È tantissimo tempo che non sentivo più sto pezzo qua. Lo so, batterista, però è stato più forte di me. È anche più forte di me. Lo so. Ha preso anche a me la mano. Live è così. Non ci sono confini, non ci sono confini o altre cose. Lo so, stavolta abbiamo sforato, ma sforare tu non è il doppio. Abbiamo sforato tutto. Abbiamo però sforato è così. La musica è, non ha confini, non ha. Però questo vi fa onore, perché nonostante tutto avete preparato solo 6-7 canzoni, insomma, per questa serata. Sì, sono stati bravissimi. Sono stati bravissimi perché abbiamo fatto ascoltare altre canzoni che non avevamo preparato, quindi vuol dire che hanno comunque la musica del sangue loro, e sono bravissimi anche dal punto di vista musicale, come musicisti, ovviamente. Ah, indubbiamente. Grazie. Per non parlare di Mattia, la voce, insomma, ecco. Grazie. Questo vi fa onore, perché trovarsi davanti a fare un doppio di intervista non è facile, insomma, sapendo. Ma sai, non ha importanza, io dico sempre: dove non arriva la voce, arriva il cuore. Bravissimo. Vero, bravo. Sono pienamente d'accordo con te. Grande, grande Mattia. Grazie. Va bene, allora a questo punto però ci dobbiamo salutare, perché è quasi mezzanotte, credo che sia giusto salutarci comunque con quella maniera, sì, splendida. Sì, possiamo salutarci con quella maniera allargata del pezzo dei Nomadi, che è il classico, il loro cavallo di battaglia. Ma ne hanno tanti cavalli di battaglia, però la gente ricorda moltissimo questo pezzo, che abbiamo già detto, era un singolo, era un successo di un disco per l'estate. Una volta si facevano anche i dischi per l'estate. Anche Senza Patria è ricordata molto. Anche Senza Patria, sì. Cavallo di battaglia. Adesso, visto che ci siamo e stiamo alla conclusione, qual è il pezzo che più amano il pubblico, che più ama secondo voi, quando fate gli spettacoli, i concerti? Ma, al di là di Io Vagabondo. Io Voglio Vivere o Senza Patria è molto richiesto, ma anche C'è un Re. Anche C'è un Re, beh, secondo me C'è un Re è un grande pezzo di trascina. A volte facciamo 3 riprese addirittura. Dice un re. Ne avete fatte una sola. No. Almeno un'altra potevate farla. Il batterista mi uccide. Sicuramente. Ah, sai un altro pezzo che apprezzano molto, che l'hanno rifatto in chiave italiana. Ho difeso mio amore. Ah, quello non abbiamo. Vedi, un altro pezzo che non abbiamo mai fatto. Faremo la prossima volta. Un altro pezzo che non abbiamo mai fatto. Ma ce l'avete qui pronto? No. No, lo facciamo la prossima volta. No, va bene, facciamo. Ma potresti fare l'intro senza così all'organo, dai, un momentino, eh. All'organo, dai. Bellissima, bellissima, bellissima. Potevi cantarla, visto che c'eri, potevate fare 30 secondi. 30 secondi. Fa chitarra organo, va bene. Sì, dai. Chitarra organo, dai. Fatela. Ormai già che ci siamo. Così non diamo fastidio a Claudio. I Moody Blues vi ringraziano. I Moody Blues vi ringraziano. Io che sono un amante. Abbiamo fatto 30, facciamo 31. Sì, dai. Io sono un amante dei Moody Blues, che amo, gli diamo alla follia questo grande pezzo, Night Watch Setting. Prego. Stanno accordando, siamo, sì, assolutamente, sì, in diretta. Assolutamente. 23:49. Mi sembra strano, ma questa è Bruno Di Vento, questa è la voce di Costino con Maurizio, ma con il status symbol. Prego. Da chi non ha visto più il sole, l'amore di lei. Io l'ho trovato in un campo di fiori, sopra una pietra c'è scritto così: sono vent'anni che non sento più i White Mice City dal vivo, e ho sempre amato i Moody Blues. Ricordiamo che all'epoca furono anche i Profeti che ripresero Ho difeso il mio amore, però la versione dei Nomadi con Augusto era un'altra cosa, anche se Renato era bravo, Renato dei Profeti. Certo. Bene, adesso adesso abbiamo finito. Abbiamo finito. Li ho tirati al massimo. Però. Allora, avrete sfruttato. Sì, sì, sì. Avevate voglia di musica, ma nomade, vero? Sì, sì, sì, sì. Beh, insomma, è un bel modo per festeggiare i 50 anni. Esatto, abbiamo festeggiato benissimo, secondo me. Bella serata. Tre ore secche di musica, che non è semplice. Tre ore, sono le 23 e 51, quindi tre ore assolutamente. Ciao bambini, buonanotte. Allora, intanto rinominiamo chi era presente questa sera, ovvero sia la band, cioè è stato Symbol, manca... Cosa succede? No, parla, ti metti fuori. È classico, no? Ah, ecco, quando sono i nomadi devi avere sempre il vagabondo sotto. Ah, ecco, non lo sapevo, vabbè. Te la suono, allora, mentre parli. Manca il violinista, cioè Filippo Maretta, ma per il resto c'erano tutti, a cominciare dalla voce, Mattia Frigatti, Claudio... Sarà tutti. Claudio Grandesso alla batteria. Filippo Piva alla chitarra elettrica acustica. Ciao, buonanotte. Michele Mattiazzi al basso. Grazie a tutti, buonanotte. E il caro amico Andrea Zanetti al pianoforte e tastiera. Che grazie, ciao a tutti, ciao mamma. Allora, grazie veramente, grazie di cuore ragazzi di essere venuti qui questa sera, di aver aderito alla richiesta, insomma, di venire a presentare il vostro nuovissimo disco. Ci avete regalato tre ore di musica straordinaria, dei Nomadi, ma soprattutto ci avete regalato una grande bravura e la grande professionalità che avete voi nel riproporre questi successi e anche le cose vostre. E io vi auguro con Maurizio assieme di fare veramente tantissima strada anche con i pezzi vostri. Grazie. Complimenti anche per la solidarietà, che non dimentichiamo. Grazie. E in ultima cosa, se volete ricordare ancora i vostri concerti, prossimi. 7 giugno presentiamo il nostro disco, Villa Momis, Cavarzere, li aspettiamo numerosi. E poi tutte le novità nel nostro sito www.statussymbol.altravista.org. E ricordiamo anche Cesenatico, Non sappiamo ancora se è il 15 o il 16, ma ci saremo. Noi ci saremo. Ci saremo. Mi sembra di conoscere. Altro bellissimo paese. Esattamente. Ci saremo e più ne saltano fuori. Esatto. Sì. E noi siamo qui, Allora, vi ricordo ancora il titolo del disco, cioè Liberi di Essere, il disco che esce in questi giorni, quindi se volete acquistarlo basta che semplicemente vi mettete in contatto con loro, quindi Status Symbol anche nella sua pagina Facebook e poi appunto nei vari concerti. Maurizio, io do l'appuntamento a lunedì? No, a sabato. Ah, giusto, questa è la sabato, una novità assoluta sì. Per la radio. Sabato avremo il Mardi Gras. Dopo il concerto di Springsteen verrà a trovarci il sabato. E io sarò di nuovo qui con me, te, con esattamente. Te. In diretta dalle ore 20:30. 20:30 alle 22. Questa volta però saremo ligi all'orario. Però poi vi diamo l'appuntamento anche lunedì, perché saremo ancora insieme io e Maurizio dalle con 21. Stefano. No, prima con te, io e te, con le due telefoniche, e con poi... anche con gli Studio 3 che ci presenteranno il loro nuovo singolo, che poi saranno nostri ospiti a settembre, ottobre, autunno, insomma. Ve lo annuncio già, quindi per la gioia delle giovani fans avrete modo di sentire dal vivo qui a Blu Radio Veneto gli Studio 3, che forse ricorderete con la canzone Lentamente del 2007, mi sembra che fosse. E poi ancora dopo dalle 22:30, sì, grande ritorno dalle 22 alle 24, il grandissimo ritorno di un artista che ci viene a trovare da Honolulu, cioè Kiana. E sarà di nuovo qui, ci ha dato l'esclusiva questa volta nazionale, insomma, per come radio, verrà a presentare di nuovo la sua musica ed è un grande onore che ci fa, e ringrazio di cuore anche Fausto Rota, che è il suo manager, che ci dà questo grande regalo. Maurizio, grazie a te ancora. Grazie a Status Symbol, grazie a te Agostino. Grazie Blu Radio. Grazie a voi. Grazie, a voi. Ciao Claudio. Io vi posso strappare una promessa? Ciao. Vi posso strappare una promessa? Certo. Prossimo disco che fate, dove lo presentate? Blu Radio. Vi aspettiamo con il disco nuovo, ragazzi. Grazie. Grazie di cuore ancora e ci salutiamo cantando tutti insieme una delle canzoni più famose dei Nomadi. Io, Vagabondo. Ciao, ciao. Ciao, buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò, ma un bimbo che ne sa, chiarore delle stelle. Chissà dov'è la casa mia, quel bambino che giocava in un cortile, io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Sì, la strada ancora là, il deserto mi sembrava la città. Non può essere l'età. Poi una notte di settembre me ne andai fuori di un cammino. Non è caldo come il sole del mattino. Che non sono altro, saldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, saldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Grazie, ciao a tutti! Grazie, buonanotte! Blu Radio Veneto. Ritornar con te, ho nel cuore l'amore insieme a te, ma con gli occhi li vedo ancora lui con te. Che sapore c'è Ciao! c'è, non vedo te, sei tu, io non lo so. Mi baciava le labbra ed io di rabbia morivo già. Mi baciava le labbra e un pugno di sabbia negli occhi miei. Mi baciava le labbra e io di rabbia morivo già. Blu Radio Veneto.